è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Cantiamo tutti insieme a IMDb, cantiamo tutti insieme a IMDb, senza Silvio ma neanche Dini, perché una nuova stagione c'è. Ma tu capisci qualcosa, caro Parenzo, di quel... Vabbè, tu sei un tifoso del Partito Democratico, è normale che canti questa canzone. Ma la conosco perché sono un uomo di mondo. Bazzi con la rete è una canzone nota che ha destato scalpore, che ha destato commenti. Ma quale scalpore? Comunque era la canzone. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera da Latina. Buonasera da Latina, dalla libreria Pier Mario, dove questa sera alle 20:30 sulla 7 andrà ma in onda se ne frega? Antonio Pennacchi. Dai, buono. Ma chi andrà se ne frega? Antonio Pennacchi. Vabbè. E parleremo di lavoratori. Va bene, benissimo. Senti una cosa. Saluta Pier Mario un attimo in diretta alla Zanzara. Buonasera Pier Mario, grazie di ospitare quel delinquente di Parenzo, sicuramente l'avrà fatto perdere tempo, vi siete persi in discorsi inutili, eccetera eccetera. Un attimo solo, questa era la famosa canzone IMPD ai tempi di Veltroni, però sta succedendo un casino, io non capisco più nulla all'interno del Partito Democratico, perché c'è chi è a favore delle primarie, c'è chi non le vuole, c'è chi è a favore della riforma elettorale in un certo modo e c'è chi è a favore invece della riforma elettorale in un altro modo ancora. E c'è chi... vabbè, insomma, varie divisioni. Fermo, stai zitto, mi ascolti o no? Non ho capito, mi stai ascoltando o no? È impossibile non ascoltarti. E allora, sentiamo D'Alema che se la piglia con Renzi. Molti contro Renzi, e questa è l'atmosfera delle primarie, eh? D'Alema contro Renzi, candidato inadatto a guidare il paese. Ma Renzi è candidato legittimamente a guidare la coalizione, il nostro partito, non ho capito la coalizione perché mi ha detto che le alleanze non lo interessano, quindi sono a essere il candidato del nostro partito a guidare il paese. Io credo che noi abbiamo un candidato migliore di Renzi, più adeguato a questo compito. La Bindi, Bersani dica a Renzi di rispettarci. Se Matteo Renzi ringrazia Bersani perché ha il coraggio delle primarie, sta a Bersani chiedere a Renzi e ai membri della segreteria, ai giovani del partito, di avere non solo rispetto delle persone, ma di avere soprattutto rispetto di una storia e di fare un'operazione verità su questi anni. Altrimenti noi con le nostre primarie stiamo dando un regalo enorme a Berlusconi, alla destra e a Grillo. Non temere, vedrai questa volta. Tutti contro Renzi, anche Vendola è ospite ieri alla festa del Partito Democratico. Sentiamo Vendola, Renzi una sorta di jukebox della banalità. Stai zitto quando parlo io, jukebox. Non si può affrontare una contesa di questo genere con l'accusa di aver paura di qualcuno dei protagonisti, soprattutto di chi si presenta con le stimmate di una innovazione che è prevalentemente di carattere anagrafico, e ogni giorno, diciamo, è una sorta di jukebox ambulante. Perché noi vogliamo cambiare con te. Jukebox ambulante. Vendola ha anche detto che si vuole sposare, L'hai letta questa, che si vuole sposare, Parenzo? Sì. Sì, avevo visto. Voglio il matrimonio vero, non i diritti, le cose finte, eccetera. Ha ragione, su questo anche secondo ha ragione, me. Perfettamente. Sentiamo Vendola. Non mi piaceva l'espressione Pax, perché era come se c'era la cosa ma era impacchettata dentro un nome, un acronimo un po' oscuro. Poi si è inventato un altro acronimo, IDICO. Badate, tutto fatto con grande coraggio da chi lo ha fatto, ma quel grande coraggio non contemplava la mia vita, nel senso che io non voglio stare dentro un acronimo, voglio poter dire che a 54 anni mi voglio sposare con il mio compagno. Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Nicole Minetti è rispuntata anche lei in un'intervista a Dio e Donna. Non lascerò il pirellone perché ammiro gli ideali di Silvio. Non mi arrendo, gli ostacoli mi motivano a essere più forte è un tema. E tenace. Io voglio risentire Che cosa secondo te? Il famoso Love Feltri? No, a Feltri sicuro, ma Love of My Life. Pronto? Love of My Life. Allora, vabbè. Ciao amore, bene, tutto bene? Tu? Sera facciamo una cena qua dopo tanto tempo. Sì, che bello. Amore, posso portare una mia amica? Certo. Carinissima, bellissima, certo. Alla seconda laurea, guarda, è giustissima. Benissimo, benissimo. Va bene? Grazie. A stasera, un bacino. Ciao, ciao amore. Ciao. Portato dal vento. Qui siamo al top, eh. Siamo ciao, al top, amore. Siamo ciao, al top. Un bacino, però ciao, Feltri, amore. Feltri, caro Vittorio, sei stato sbugiardato ancora una volta da questa cosa della Minetti. Ci avevi detto prima delle vacanze, sentiamo, risentiamo. Comunque lei si dimette, questo lo so con certezza. Cioè lo so assolutamente, cioè fonte diretta, non ti posso dire chi, ma lo puoi immaginare, so che lei praticamente si è già dimessa. E se non sarà così, lunedì vi autorizzo a prendermi in giro per 40 minuti sulla Zanzara. Era il 13 luglio, 800240024, Renzi si difende dai baci che vuole dargli la Santanchè se vincerà le primarie, sentite Renzi. Per me si può fare l'alleanza anche, non dico con la Santanchè, perché ho visto che oggi mi ha minacciato di baciarmi e come dire ho avuto la solidarietà dei parlamentari bersaniani, li ringrazio che hanno detto vile minaccia della Santanchè a Renzi. Vile minaccia addirittura, non è che fanno male i baci della Santanchè, non è che sia il diavolo adesso, su. Appunto, dai. No, adesso non esageriamo. Ma vogliamo ricordare, prima di presentarti un grande ospite. Aspetta un attimo, vogliamo ricordare prima di presentarti un grande ospite che Giovanardi vuole dedicare un francobollo a Berlusconi? Come dimenticarla, sì, questa sì, cosa? Bellissimo. Sentiamo. Oggettivamente, nella storia dell'Italia del fine 900, inizio 2000, della vita politica, Berlusconi sarà come Giolitti, come Mussolini, come De Gasperi, come Berlusconi, personaggi che nel bene o nel male ha fatto la storia d'Italia. Ora, come sono stati ricordati Nenni, è stato ricordato De Gasperi, sono stati ricordati esponenti del Togliatti, insomma, tanti esponenti nei francobolitani, non vedo niente di se in futuro si è ricordato anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, non ci vedo proprio niente di scandaloso. È la storia d'Italia. E siamo qui, chi ti ho invitato questa sera, Parenzo? Chi ti ho invitato? Chi guarda, ti ho invitato? Per la tua gioia io ti dico che ci sono tre operai dell'Alcoa che sono saliti benissimo. Su un silos a 70 metri. Va bene, e pazienza, ma chi ti ho invitato? La puntata di questa sera è dedicata a questi tre lavoratori sì. che stanno lottando per il posto va bene, di lavoro. Questa la dedichi tu la puntata. Ecco, chi ti ho invitato secondo te stasera? Chi ti ho invitato? Chi mi ha invitato? Chi dunque, invitato? Potresti aver invitato un grande scrittore, ad esempio, potresti aver invitato. Beh, anche, sì, anche. Ti sorprenderò un anche. Un grande intellettuale, sì, un grande intellettuale sì, italiano probabilmente. Sì, chi è grande, Vanna Marchi? Chi ha invitato? No, ma che c'è tra Vanna Marchi? No, dai, non su. Lo so, perché a sorpresa uno ti chiede così e dice no, è con noi va Vanna Marchi! No, no, questo ti faccio gli scherzi. Questa volta sempre è tutto così. Vero. È con noi Massimo Cacciari, buonasera. Ah, meno male, ah, finalmente. Buonasera. Come sta? No, scusi professore, che in genere il livello della trasmissione, meno male che ogni tanto riusciamo a inserire... No, le battute erano molto divertenti, devo dire. Senta Cacciari, le voglio chiedere una cosa, ma lei capisce quello che succede nel PD? Perché le primarie non si sa se si faranno o no, alcuni le vogliono, altri no. La legge elettorale, alcuni vogliono il premio alla coalizione... È tutto perfettamente comprensibile. Cioè il caos è comprensibile? Il partito, beh, il caos, un caos leggibile, ecco. Il sì. Partito Democratico di fatto è un partito che non è mai nato e che è stato un contenitore di tendenze diversissime sul piano culturale, politico, direi anche umano. Cioè? E quindi è chiaro che ora che siamo al dunque, perché sì. bisogna preparare una campagna elettorale difficile e bisogna cercare di contribuire a dare una svolta a questo paese, tutte le contraddizioni evidentemente non possono più essere nascoste e emergono fragorosamente. Cioè alcuni dicono per esempio che poi altra divisione è quella su Monti, alcuni dicono che bisogna seguire le riforme del governo Monti, altri dicono... Ma veda, la divisione fondamentale politicamente parlando è quella. Sì. quella. Cioè, perché è chiaro che non puoi pensare di governare con Monti e Vendola. Certo. E quindi la divisione fondamentale è lì, io penso che il Partito Democratico dopo le elezioni, lo dico ormai da due anni, finirà con dividersi, con lo spaccarsi per forza. Senta, il Partito Democratico purtroppo è un esperimento fallito. Mi è costato 15 anni di vita, ma così è. È un esperimento fallito. Professore, lei andrà a votare alle primarie? Voterà per Renzi? Sì, andrò a votare alle primarie, ma spero che non vi sia soltanto l'alternativa tra Bersani e Renzi. Spero che qualcun altro metta fuori il naso. Ma non credo. Vendola, cioè già Vendola che non è del Partito Democratico. No, Vendola, ma dico, veda, l'equivoco fondamentale delle primarie, incredibile. E le primarie di coalizione sono ridicole. L'inesistenza di questo, esattamente, l'inesistenza di un partito, che si facciano primarie di coalizione. Ma infatti. Basta che si immagini, negli Stati Uniti, non so, le primarie, vanno a votare, se si svegliano quella mattina, eccetera, i repubblicani vanno a votare per uno dei candidati democratici. Così, se vengono colti dal raptus mattutino. Sì, no, ma infatti... Le primarie devono essere cose serie, le primarie devono essere delle persone che si vanno a iscrivere per tempo, che si iscrivono per votare in quel partito, eccetera, eccetera. No, fatte così sono... Cioè, Vendola che c'entra. Sono cose ridicole, che dimostrano soltanto l'inesistenza di un partito. Un partito è tale se all'interno del partito, attraverso procedure democratiche, tu decidi chi ti dirige e chi ti rappresenta. Mi pare ovvio. Senta, no? Ma se invece restano Bersani e Renzi, lei per chi voterà? Come è probabile? Non lo so. Cioè tra i due a pelle, chi preferisce? Renzi? Ma guardi, Bersani è una persona che conosco da quando avevamo i calzoni corti. Cioè, Bersani è una persona che certamente non è un grande leader, non ha nessun carisma, non... È adatto a guidare quel paese, secondo lei? Ma certamente ha più competenza, probabilmente più capacità di mediazione, eccetera. Ma sa, Renzi è un oggetto misterioso, nessuno sa chi è Renzi, chi lo sa chi è Renzi? Cioè, è impossibile, non è al momento giudicabile, ha fatto 2 anni di sindaco. Cioè il nulla, come dice Grillo, il nulla. Ma no, il nulla, per carità, io non offendo nessuno, si figuri se offendo nessuno. Renzi sottolinea un fatto vero, che è incredibile che il Partito Democratico sia di fatto diretto da chi è, da una compagine di persone che sostanzialmente erano la Federazione Giovanile Comunista di 40 anni fa. Cioè, questo è pazzesco, questo è assolutamente pazzesco. Da questo punto di vista Renzi ha perfettamente ragione. Cioè Bersani, D'Alema, Veltroni, dice gli stessi. Appunto, Fassino, eccetera, eccetera. Questo ha perfettamente ragione, ma detto questo... Cosa propone? Non si capisce. Cosa propone? Che cosa vuole fare? Quale alleanze propone? Perché dire che non vuole Bersani, vabbè, ma poi con chi farà il governo? Non è un oggetto misterioso. Beh, c'è quella, diciamo, la cosa fondamentale, secondo me, è che vuole mettere un po' da parte i sindacati nel rapporto stretto che hanno col Partito Democratico. Anche questo è un discorso che tutti hanno fatto, che tutti fanno, che aveva fatto anche Monti. Non è possibile in un regime democratico mettere da parte i sindacati. Veda, questo è un colossale equivoco, un chiacchiericcio vacuo. Perché la concertazione, correttamente intesa, esiste dappertutto, esiste negli Stati Uniti, come in Germania, come in Francia, in un regime democratico i sindacati sono una componente essenziale. No, ma sì, comunque non è che li vuole cancellare Renzi. Comunque, ma lei per caso Cacciari, non è che ha intenzione di candidarsi, no, al Parlamento? Perché non entra in Parlamento? Perché ci sono già stato da piccolo, basta, no? Sono cose che si fanno una volta nella vita, non devi ripeterle più di tanto. Ho fatto il sindaco sufficiente, ho fatto il parlamentare italiano, europeo, basta, sono vecchio. È giustissimo che ci siano degli altri, soltanto che questi altri che vengono fuori sono più anziani di lei. Sono più anziani di lei. Adesso qualche idea più di me, non qualche idea di meno. Eccoci qua alla Zanzara con Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, Parenzo in collegamento da Latina, dove più tardi avremo un grande ospite, grandissimo ospite a Latina. Chi pensate quando c'è un riferimento a Latina? Beh, un grande scrittore. Il grande Pennacchi, con cui poi saremo in diretta. Io volevo che la cosa restasse un po' volevo lasciare un po' di suspense, tu hai rivelato subito suspense? Tutto, come al solito. Ma se tu dici Latina, un grande scrittore, che ce ne sono 50.000 a Latina. Senta, Cacciari, s'avanza invece una strana alleanza, anche qui vogliono fare le primarie, roba da matti, tra Montezemolo e Giannino. Ho letto che vorrebbero fare le primarie per non so che cosa. Adesso io do un consiglio all'amico Giannino: le primarie tra il movimento di Giannino e quello di Montezemolo, no, per favore no. Ecco, che ne pensa di questa strana alleanza? È che i due non erano in grandi rapporti, ma guardi Giannino le piace? Non ne avevo sentito, non è che sia stata molto pubblicizzata questa cosa. Sì, negli ultimi giorni ne parlano. Mi fai una cosa che non sta né in cielo né in terra. Perché? Perché cosa vuole dire? Cioè, cosa vuole? Cioè, Montezemolo, l'unica possibilità che ha Montezemolo di contare qualcosa è quello di cercare con il suo movimento, presentandosi o non presentandosi, comunque di far parte di una coalizione di centro che al momento attuale è, tra virgolette, egemonizzata da Casini. E poi bisognerà vedere, come ripeto anche qui da un anno e mezzo, bisognerà vedere cosa fa Monti, perché tutto può cambiare se Monti si schiera esplicitamente o implicitamente, ma comunque prende posizione netta nella competizione elettorale, oppure se sta fuori dai per adesso dice di no, però poi bisogna vedere. Però una cosa è che lui non ci sia, altra lei cosa ci spera? È che lui, lei ci spera? Io ci spero, perché ritengo che se Monti si presenta in una forma diretta o indiretta, ma comunque con una sua, in modo consistente ed esplicito e chiaro, io penso che il Partito Democratico sarà, anche le componenti del Partito Democratico nostalgiche per l'Ulivo, saranno in qualche modo costrette a fare prima o dopo, prima le elezioni o subito dopo, una coalizione con lui. Insomma. Senta, con che lui ne pensa invece di questa diatriba tra Grillo e Bersani che si insultano reciprocamente? Naturalmente ha iniziato Grillo, però è uno dei tanti sintomi della decadenza di questo paese e della politica. Ma di chi è la colpa, secondo lei? Di Grillo? Non è la colpa di Grillo, no, perché Grillo non esisterebbe se non ci fosse stata l'antipolitica fatta dai politici italiani per 20 anni, di destra e di sinistra. Quindi la colpa non è certamente di Grillo. Quindi lo capisce Grillo? Grillo è nient'altro che un sintomo di fa il suo gioco, crisi, dice lei, della crisi pazzesca che ha coinvolto questo paese negli ultimi 20 anni, della sua. Ma ha sbagliato a dare il fascista a Bersani? Ma certo che ha sbagliato, ma che c'entra? Ma lo sa benissimo anche Grillo che Bersani non è fascista. Certo, no, che al contrario, che Bersani ha Grillo. Ma tutti e due sanno, no? Bersani sa che Grillo non è fascista, Grillo sa che Bersani non è lo zombie, eccetera, che predica. Sono queste sceneggiate, una zuffa patetica, che allontanano la gente. Sono menzogne sapute da chi le dice, anzitutto. Ma vogliono solo occupare spazio sui giornali? Vogliono solo occupare spazio sui giornali, Grillo in particolare, ovviamente, perché deve però lei lo capisce, fa il suo gioco, dice le stesse cose. Ma è tutto comprensibile, quello che è drammatico, quello che è tragico, quasi tragico ormai, visto la situazione anche economica, visto quegli operai dell'Alcoa che sono sopra. Gli operai dell'Alcoa sopra, di cui parlava prima Parenzo, mica sono il frutto del caso, del destino cinico e baro, sono frutto di 20 anni, 25 anni di assenza di politica anche industriale in questo paese, sono dell'assenza di classe politica, dell'assenza Senta, di ma uno come D'Alema di governo, capisce? Cioè questo, anche gli operai dell'Alcoa sono frutto di tutto ma questo. Ma professore, l'ha letto lei il libro di Veltroni, l'ultimo libro? No. Ma perché? Perché le sue letture? No, chiedo, voglio dire. No, perché non ho tempo di leggere anche i libri di Veltroni, cosa vuole, perché lo vuole che ci faccia? Né Veltroni ha mai letto un libro mio, né io ho mai letto un libro di Veltroni, faccia l'anima nostra. No, ma non lo tiene sul comodino il libro. Ma perché dovrebbe tenerlo sul comodino? Ma non lo so, chiedo al professore, magari è meglio. Ma no, ma non l'ha nemmeno comprato, non l'ha ricevuto. Comunque, Ingroia, per esempio, il dottor Ingroia, adesso dice che alcuni vogliono dividere il PM dal Quirinale, ma ci vuole un po' una faccia tosta da questo punto di vista. Un pochino. Beh. Ma lei ce lo vede in politica il signor Ingroia? Ma penso che finirà con l'andarci, come De Magistris, come tanti altri, come Di Pietro. Sono niente di scandaloso, per carità. Scandaloso che in Italia ci possano essere intercettazioni fatte al Quirinale così. No, è scandaloso non intercettare il Presidente della Repubblica, qui c'è una disquisizione giuridica, il fatto che tutti, che alla fine i contenuti possano essere in qualche modo conosciuti e diffusi. Se permette, è anche scandaloso intercettare il Presidente della Repubblica, mi permetto di dire che c'è qualcosa che non è proprio... indirettamente, vabbè, ma allora quando tu vedi che se non c'è nessun rilievo bisogna penale, distruggere tutto, certo. Se il Presidente della Repubblica ti confessa in un'intercettazione in cui lui è coinvolto casualmente, ti confessa di aver ammazzato la suocera, magari, ma hai capito, se tu vedi che non c'è nessun rilievo penale in quanto il Presidente della Repubblica dice, tu quella bobina la distruggi. Senta, ma si parla anche di un partito dei sindaci, ha sentito De Magistris, una sorta di partito arancione. Già fatto da cacciare i 10 anni. La stagione, guardi, io purtroppo l'ho vissuta, la stagione in cui subito dopo la legge elettorale, la nuova legge elettorale, si andò a votare nel 93, e lì in effetti c'era una vera simpatia e un vero comune sentire tra i grandi sindaci delle città metropolitane, eccetera. Adesso non c'è più nulla di tutto ciò, la proposta del partito dei sindaci è semplicemente ridicola e ha fatto bene Bersani, D'Alema a ridicolizzarla. Beh, anche se Letta ha detto De Magistris potrebbe sostituire Di Pietro nella foto di Vasto, cioè c'è un tentativo magari di nodi. De Magistris sono tutte buttate in clima preelettorale, ma il vero tema su cui davvero da seguire seriamente, poi è molto giusto dire anche il vero ridendo, si figuri, però il vero tema è questo: se si riesce dopo le elezioni del 13 a creare ugualmente una coalizione, non dico come l'attuale, ma in cui il perno di nuovo sia la squadra Monti. Lei è a favore comunque della grande coalizione? Quello può dare respiro, può dare un minimo di tranquillità e di respiro per affrontare i problemi del debito, eccetera, eccetera. Se invece siamo di nuovo a Ulivo contro destra, siamo morti. Parenzo, che dici? Tu non sei d'accordo tanto, mi sa. No, sei montiano tu, No, assolutamente, Monti doveva fare molto di più, l'abbiamo detto mille volte, con più coraggio. Lo sa, invece, un po' per ridere, al Festival della Filosofia, dove ci sarà anche Cacciari, uno degli ospiti d'onore è Fabio Volo, dottor Cacciari, professor Fabio? Cacciari. Fabio Volo, lo conosce? È molto simpatico Fabio Volo, sì, l'ho conosciuto, molto, molto simpatico e anche molto serio nell'affrontare temi. È un ospite adatto? Come quelli che stiamo discutendo noi. Io penso di sì, perché no, la filosofia non è mica una scienza astratta e formale, no, ma giusto, lo penso anch'io. È pensare il proprio presente, pensarlo con consapevolezza della storia passata ma anche con leggerezza, e con coerenza di termini, e anche perché no, e anche cercando di divertire la gente, certo, anche con leggerezza. Infatti molti ironizzano su questo Fabio Volo al Festival della Filosofia. Io non ironizzo per niente, perché non c'è assolutamente per niente. Parenzo? No, dico che sono, ha ragione, mi sono cacciato, però io forzato. Io tornerei sulla questione in conclusione delle primarie. Però, proprio se è vero che lui dice né Bersani né Renzi, però tra i due, dice uno davanti la scheda, lei è una persona trasparente, chiara, Bersani, Renzi. Ma aspetto di vedere i programmi di Bersani, lo so, aspetto di vedere Renzi cosa mi racconta sul welfare, cosa mi racconta sulla sanità, cosa mi racconta sulle politiche industriali, su quegli operai dell'Alcoa, sulle crew e del Sulci dentro le miniere, quelli di Taranto. Intanto vendola, sentito, si vuole sposare, vuole il matrimonio, quello vero. Questa è una cosa molto delicata, questa è una cosa molto, ma ha ragione a chiederlo? Personalmente, come dal punto di vista umano, personale, penso di sì. Però certo, questo lui, Vendola, essendo un politico, poi sa benissimo quali possono essere le conseguenze dell'assunzione di una posizione esplicita di questo genere per il Partito Democratico con una coalizione di centro-sinistra. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un passo. Intanto, caro Parenzo, al Fatto Quotidiano rimpiangono Emilio Fede. Anzi, dicono, il nuovo TG4 fa rimpiangere Emilio Fede. Ci mancano i borbottii indistinti, gli occhi al cielo, le meteorine multiuso, i cazziatoni fuori onda, le notizie dissennate. Ci manca, insomma, la comicità demenziale. Non ho capito. Dipende dai punti di vista. Chi è qui? Sempre Zaira, sempre al seguito di Parenzo. Ma come fai a sopportarlo? Ma è simpatico, dai. In realtà anche tu rimpiangi Zaira, operatrice della 7, produttrice. Scusa, No, ma ci mancherebbe. Dicono che sei molto bella, tra l'altro. Mi dicono che sei una bella ragazza. Mi dicono. Non lo so. Fidanzata, bisogna dirlo, no? Giusto? Sì. giusto. Giusto, fidanzata, sennò qualcuno si offende. Fidanzata, mi ripassi per favore Parenzo, perché come al solito vado a recuperare perché sta tirando i cavi. Sai sì, ma sono le 19:18, alle 20:30 inizia la trasmissione. Sono le 19:18. Ma ti dico che gli ho messo del mettino e sta tirando i cavi, perché ti dico, in tempi di crisi è bene che tutti facciano tutto, anche no? I giornalisti, i conduttori devono dare una mano alla produzione, ai tecnici, a tutti, è no? Chiaro, chiaro, anche chiaro. Tu rimpiangi Emilio Fede al TG4, cara Zaira? Assolutamente no. Perché no? Perché no? No, perché no? Ma era un momento, come dice giustamente il fatto, qualcuno interpellato dal fatto di comicità demenziale. Meglio quello, no, questo, di questo. Questo lo condivido, però era a mio avviso un po' scortese con i collaboratori, quindi difendo la categoria. Mamma mia, questo. Ma difendo la categoria, no, perché dici, un po' più educati, era cattivo, si lavora meglio. Era cattivo. Ma non voglio dire cattivo, però non era. Un dittatore, un dittatore. Non l'ho detto, però può sembrarlo. Può sembrare, vabbè, non fare la diplomatica, adesso stai parlando di Emilio Fede, eccetera. Non è che mi parli in politichese pure tu, è finita, No, Emilio no, Fede, ieri alla Zanzara, ripassami Parenzo, grazie Zaira. No, ma io, il mio tenore di vita, allora la macchina, io pago il leasing 1.400 euro al mese. Chiaro, la cameriera, sia pure a mezzo servizio, mi costa 1.000 euro al mese. Ho due fratelli disoccupati, ai quali ogni tanto, soprattutto a uno, mando un sostegno. Un altro rimasto senza lavoro da trovare a Sharm el Sheikh, cioè non sono una persona che vive da milionario, capito? Questa è la verità. Questo ieri sera quando ci siamo riconciliati con Emilione. Intanto prima del TG3, voglio farvi risentire un altro dilemma di oggi, a Sky TG24. Fermo un attimo, dilemma a Sky TG24. No, ma cos'è sta cosa? Un attimo, dai, alla Zanzara, su. Sì, scusami, sì. Ma Sky va sempre in onda su Sì, anche dopo le 19, sì. Sky TG24 oggi, dilemma ancora su Renzi. Tutti questi attacchi a Renzi me lo fanno diventare ancora più simpatico, contrario di quello che pensa Cacciari, i programmi tanto non contano nulla, diciamo la verità. Io guardo alle personalità, alle sensibilità, agli umori, alle intenzioni, i programmi non contano un cazzo. Il problema di Renzi è Renzi, perché Renzi è sceso in questa agone in polemica con tutti, io sono sui giornali, diciamo, non solo vuole rottamare, diciamo, la vecchia guardia, ha litigato con la Bindi, ha litigato con Franceschini, ha litigato con Vendola, ha litigato con Casini, non lo so, in queste condizioni non si governa il paese, cioè noi abbiamo bisogno di qualcuno che unisca, non di uno che litiga con tutti, questa è la mia preoccupazione. Mi permetto di dire che per cambiare si deve litigare con le persone, altrimenti se uno è troppo diplomatico è finita, eh? È finita. Ma che razza di primaria sono poi? In che senso? Scusa, adesso non è che torni e spunti fuori di nuovo a dire questa stronzata. No, voglio dire, se me lo fai dire, che in America Obama e la Clinton se le sono tirate di santa ragione. Appunto, bravo. Sì. Allora adesso non è che arriva il leader massimo con il suo giusto baffetto e dice no, bisogna andare tutti d'accordo. No, hanno due visioni diverse di come gestire il Partito Democratico, di quali politiche fare, lo possiamo dire o no? E soprattutto dice Renzi, fuori tutti, mamma santissima, fuori tutti quelli che sono da 20 anni in Parlamento, eccetera, eccetera. Titoli del TG3, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Vertice Monti Hollande, 3 tappe per salvare l'euro. Le parti sociali, il Presidente del Consiglio chiede uno sforzo per rilanciare lavoro e produttività. Banca Italia, ingiustificato spread tra BTP e Bund, non riflette lo stato della nostra economia ma risente dei rischi di contagio. Il PD alle prese con il nodo delle primarie, Renzi si prepara a sfidare Bersani, la bocciatura di D'Alema inadatto a governare, sulla legge elettorale ancora stallo. Resta in carcere Lusi, ex tesoriere della Margherita, lo ha deciso il tribunale del riesame per il quale il senatore è stato ambiguo e reticente. Test per le università numero chiuso, oggi medicina, domande sullo spread e sull'IMO, sarà ammesso un concorrente su 8. Michelle Obama apre stasera la convention democratica, come aveva fatto la moglie dello sfidante repubblicano, Barack ammette non ho finito i compiti. Alcoa, 3 operai sospesi su una torre a 70 metri d'altezza, passera gela le speranze, quasi impossibile salvare l'impianto. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. È E beh, caro Parenzo, questa sera ti ho portato un grande personaggio, eh. Ti ho portato un grande personaggio. Un grande personaggio? È un personaggio molto addentro a cose segretissime, segretissime, segretissime. Ah, finalmente parliamo di cose serie importanti. Chi è parlato? Solzhenitsyn? No, ma che c'entra? Quello pure no. Sa che... Non so se sia morto, no, credo che sia non defunto, hai neanche la capacità di far resuscitare i morti con questa trasmissione. Questo. Un grande personaggio ti ho portato, è stato responsabile della sicurezza di Telecom per tanti anni, personaggio molto discusso, vabbè, insomma, non voleva nemmeno venire, poi alla fine è venuto perché ti conosce, perché ci conosce, con certo. Qualche dubbio, Giuliano Tavaroli, buonasera. Buonasera, buonasera a tutte e due, buonasera. Come va? Come stai? Bene, grazie, voi... Non c'è male, che cos'è che bisogna fare nella vita? Tre cose, Tavaroli, lo vuole dire che in per maniera... Una vita, sì, per una vita equilibrata bisogna fare un po' di sano esercizio fisico, sì. Coltivare la dimensione spirituale, sì. Ovviamente avere una buona cultura alimentare, sì, ed evitare accuratamente di essere intervistati da Parenzo o da Cruciani. Addirittura, e perché è venuto allora? Sì. Questa è la ricetta, vabbè, perché voi sapete che... Che alla fine sentirci tante volte, poi questa volta ho detto va bene, va, concediamoci. Sì. Senta, ma non so che quale utilità dopo voglio dire gli illustri ospiti di stasera, che cosa posso, come dire, contribuire. Beh, stasera abbiamo avuto Cacciari, adesso non faccio ironia su questo. Abbiamo avuto Cacciari per una sera che non abbiamo cialtronismo galoppante. Mostri vari che pure ci piacciono a noi moltissimo, mostri, e continueremo ad averne anche questa sera, caro Parenzo. Non c'è dubbio. Sì, anche stasera avremo mostri. Io senza mostri non ci so stare. Allora, io voglio chiedere una cosa a Tavaroli. Hanno dato questo risarcimento a Bieri di 1 milione di euro. Ieri è stato deciso, ci sono anche le motivazioni per essere stato spiato, per ordine anche dell'Inter. Le ha fatte lei le operazioni di spionaggio, caro Tavaroli? Beh, no, non le ho fatte io, però diciamo che sono state svolte durante il periodo in cui avevo responsabilità in entrambe le società. Ecco, ma materialmente, chi l'ha fatta materialmente? I vostri tecnici, quelli che all'epoca erano i tecnici della Telecom? No, era un fornitore, no? Nessun tecnico della Telecom. Ah, Cipriani, la Polis Distinto. La famosa agenzia, sì. Senta, Polis Distinto. La Polis Distinto. Cosa le chiese Moratti esplicitamente? Perché fu Moratti a chiederle esplicitamente tramite Tronchetti Provera, no? O sbaglio? Sì, no, in realtà sono due episodi che ormai parliamo di archeologia giudiziaria, perché sono episodi che datano nel 2001 e 2003. Sì. E quindi in realtà sono due episodi distinti. Uno riguardava l'Inter e la verifica del rispetto contrattuale dei comportamenti dei giocatori, sì. Non solo ieri, erano diversi giocatori. E poi un secondo episodio che era una valutazione rispetto alla possibilità di avere Vieri come testimonial, sì. della Pirelli, sì. Che in cui siamo in corso in uno sfortunato episodio di che? Quello che poi ha dato, no, nel senso che poi si fece accesso all'informazione relativa al traffico telefonico, queste sono ormai verità giudiziarie. Ma scusi un attimo, ci sono anche altri giocatori, ha detto lei, che furono spiati per i loro comportamenti, spiati, per vedere. Parola bruttissima. Vabbè, controllati. E chi sono questi altri giocatori? Adesso mi ricordo chi erano quelli dell'epoca, comunque diversi giocatori dell'Inter, e semplicemente in quell'occasione indicammo all'Inter qual era il fornitore della Pirelli per questa attività di investigazione. Sì, certo, ma non si ricorda il nome di qualche altro giocatore? Non mi ricordo. Io non lo ricordo bene. Oltre a Bieri, chi fu controllato? C'era. Beh, adesso non mi viene in mente, ma comunque erano diversi. Ma erano di 10 anni fa. No, certo, nel 2001. Ma perché questi qua non hanno fatto causa, per esempio? Questa è una bella domanda. A saperlo. Perché probabilmente non hanno subito le conseguenze di inquietudine e ansia che ha rivendicato, esatto, ieri. Invece, ma è credibile questa cosa? È credibile questa cosa, secondo lei, che uno possa avere, come dice Vieri, poi il tribunale in parte gli ha dato ragione, non su tutto, che possa essere stato colpito da inquietudine e ansia dopo aver saputo di essere stato controllato? Guardi, io sono stato addirittura teste, no? Sono stato citato come teste, sì. Quindi nella causa civile di risarcimento. Ma citato quindi come teste da Vieri stesso? Sì. Per cui lei ha dato ragione a Bieri su questa cosa qua? No, ho solo chiarito quali erano gli episodi, no? Che circostanze erano stati maturati, eccetera. Ma fu Moratti materialmente al telefono, Moratti, cosa le chiese? No, ma non fu Moratti in quella circostanza, Moratti lo incontrai di persona. Appunto. E poi mise in contatto, poi in realtà cioè cosa voleva Moratti? Cosa voleva capire? Se Vieri andava con troppe donne, se beveva, se fumava? Sì, ovviamente c'era un regolamento di squadra, tra l'altro poi il rapporto fu diretto fra l'Inter, poi distinto, fra Gelsi e il fornitore. Era il regolamento di squadra, la vita dell'atleta. Ma secondo lei sono cose che fanno tutte le squadre, Tavaroli? Cioè più o meno, con diversi metodi. Cruciani, io adesso, a me che piace, come dire, magari meno di voi guardare il fatto, guardare il generale, non lo so se lo fanno, però il calcio è una cosa, è un'industria talmente importante a cui ruotano intorno talmente tanti soldi, economie così importanti, il calcio, lo scandalo dello scommesse, che comunque voglio dire. Cioè, secondo lei le società oggi controllano i loro giocatori in qualche modo? Non dico con i metodi che avete utilizzato voi con le telefonate, però c'è qualche controllo? Cruciani, nessuno telefona. No, le telefonate, il traffico telefonico. Ho capito. Perché dopo 10 anni tormenti ancora si parla di intercettazioni. Anche lo stesso Parenzo incorre in questo errore. No, traffico telefonico, ho detto traffico telefonico. Sì. Cioè, non lo so, non credo, però devo dire che il mercato delle indagini in generale in Italia è un mercato ancora molto fiorente, che voglio pensare sia svolto nelle norme, nelle regole. Ma è giusto secondo lei controllare i giocatori da questo punto di vista, cioè controllare il loro comportamento anche? Io credo che una soluzione comunque va pensata, perché il calcio è un'economia così importante, dove il risultato è importante anche non per fatti esclusivamente sportivi. Fenomeni recenti ci dicono che è ovviamente soggetto a rischi, tentativi di inquinamento della prestazione. Dunque sportiva. È giusto che la società si tuteli. Di meglio bisogna fare. È giusto che le società si tutelino anche nei confronti dei giocatori. Io credo che si possa fare con anche metodi legali, con naturalmente. Strumenti, metodi legali, e condivisione di codici etici con i giocatori, ma anche facendo i controlli previsti e permessi. Eccoci qui, 800 24 00 24, a grande richiesta, a grandissima richiesta degli ascoltatori, il Giovanardi sul francobollo da dedicare a Berlusconi, risentiamolo. Oggettivamente, nella storia dell'Italia del fine 900, inizio 2000, della vita politica, Berlusconi sarà come Giolitti, come Mussolini, come De Gasperi, come Berlusconi, personaggi che nel bene o nel male ha fatto la storia d'Italia. Ora, come sono stati ricordati Nenni, è stato ricordato De Gasperi, sono stati ricordati esponenti del Togliatti, insomma, tanti esponenti nel francobollo italiano, non vedo niente di se in futuro si è ricordato anche il presidente del Consiglio Berlusconi, non ci vedo proprio niente di scandaloso. È la storia d'Italia. È la storia d'Italia, e poi Giovanardi che dice Grillo deve stare zitto, deve comportarsi come Fra Cristoforo nel famoso Mandoni, romanzo di Mandoni, dei Promessi Sposi, certo. Cioè deve espiare la sua colpa perché ha accoppato, dice proprio così, accoppato tre persone. Beh, accidentalmente. Sì, certo. Quando sale in cattedra e vuole fare i processi pubblici nelle piazze, io ho detto più volte, faccio come padre Cristoforo, i Promessi Sposi, che avendo ammazzato uno, dopo si è fatto frate, è andato a chiedere perdono ai parenti della vittima e per tutta la vita è espiato il suo peccato. Io uno che con un fuoristrada che va in giro per la montagna e accoppa quelli che c'è in macchina con lui e viene condannato per omicidio colposo e che sale in cattedra e vuole processare a me, io non so se lo chiamo fascista. Sicuramente è inqualificabile il suo atteggiamento. Eccoci qui, 800 24 00 24, e ancora con noi Giuliano Tavaroli, ex responsabile di sicurezza di Telecom. Caro Parenzo, infatti, cosa vuoi chiedere al signor Tavaroli? Chiedere subito una cosa, perché ricordiamo che Tavaroli è uno dei massimi esperti di sicurezza aziendale, quindi a lui voglio chiedere una cosa molto precisa: quando i giudici decidono di mettere un'utenza sotto controllo, un parere tecnico, da quel momento là quante persone sono materialmente in possesso di queste informazioni, caro Tavaroli? Quante? Da quando viene disposta l'intercettazione? Cioè, dei funzionari della compagnia telefonica? In generale, quante persone dispongono di questi dati? Oltre al magistrato? Pochissime, Parenzo, lei lo sa bene. Pochissime quante? Che ne so? Voglio dire, questo dipende dalle indagini, dipende dalla riservatezza. Non so, due, però tre, sono due. Che la storia, sì, quattro, cinque, sei. Però il problema è che mi sembra di ricordare che, salvo pochissimi casi, il segreto istruttorio sia sempre stato violato a valle della comunicazione delle parti delle indagini. Sì, sì, non a monte, certo. Cioè non all'inizio addirittura, quello sarebbe, no, tranne qualche rarissimo caso. Senta, ma tornando alla vicenda di Vieri. È un sistema sicuro però questo, secondo lei? È un sistema sicuro, ma bisognerebbe allora intervenire lì, anche a monte. Mi direbbe da dire che non esiste nessun sistema sicuro, però so per certo che sono stati fatti continui interventi per migliorare la riservatezza e la gestione in maniera assolutamente... Tavaroli è peggio dei democristiani, è peggio dei democristiani, Tavaroli, una cosa pazzesca. Senta una cosa, Tavaroli, ma... restando un attimo su questo punto qua, secondo lei le utenze di uno come il Presidente della Repubblica, no, sono facilmente intercettabili? Cioè, voglio dire, chi è che può controllare le utenze del Presidente della Repubblica? A parte le disposizioni, insomma, il fatto, in questo caso sono state intercettazioni indirette, no? Perché controllavano altre utenze. Ma invece, se uno volesse controllare il traffico telefonico del Presidente della Repubblica, chi è che lo conosce? Penso che praticamente nessuno, tranne i casi, voglio dire, in cui questo possa essere autorizzato dall'autorità giudiziaria. Vabbè, questo è chiaro, se uno è autorizzato, in questo caso non ci può essere autorizzazione perché è il Presidente della Repubblica. Ma è facilmente intercettabile il Presidente della Repubblica, secondo lei? Cioè... Beh, allora, io credo di no. Anzi, credo che sia molto difficilmente intercettabile, che la sua privacy sia protetta da tutte le persone che collaborano alla difesa dell'istituzione. Senta una cosa, per tornare alla vicenda di Moratti, ora lei ha detto una cosa interessante prima, fu Moratti di persona che mi parlò di questa vicenda di Vieri. Cosa le disse esattamente? Io voglio spiare Vieri per spiare, controllare, insomma adesso spiare, controllare, abbiamo capito. Esattamente, la questione era la vita... Il rispetto del regolamento sportivo della squadra e l'essere, puoi dire, che Vieri facesse una vita, voglio dire, conforme a quella di un atleta. Ma sapeva che questa cosa qua era comunque illegale, perché sapeva dove si andava a parare, non è che si rivolgeva a una... No. Come no? Però, per essere precisi, Cruciani, sono due cose differenti. Sono un episodio in cui io credo che sia fatto nelle norme all'epoca consentite di controllo di una persona in spazi aperti, e quindi credo che quello non sia un fatto penalmente... quello del 2001, dice lei? Quello del 2001. Poi è ovvio che se Vieri ritiene di essere stato danneggiato, ricorre alla giustizia civile che gli dà ragione. Ma un milione secondo lei alla fine è troppo o è poco rispetto a quello che avrebbe subito Vieri? Questo voglio che dire, ne so, cioè... io sono dell'idea che bisogna leggere le sentenze e rispettare la magistratura, perché voglio dire, avrà valutato in maniera corretta gli atti. Vabbè. Il secondo episodio? Secondo episodio è completamente differente, non riguarda l'Inter, e in quel caso lì ci fu sicuramente un abuso. Perché non riguarda l'Inter? Perché riguardava invece un fatto di sponsorizzazione della Pirelli. Cioè l'Inter secondo lei non ha commesso nulla di illegale? Sì, alla fine sì, perché è stata condannata anche in solido con la Telecom. Ma probabilmente per la valutazione è stata rispetto al danno e al fatto di essere stata la società che aveva commissionato quell'attività. Perché la sentenza è una sentenza di tipo civile. Sì, no, non c'è dubbio. Senta un attimo, ma quante persone poi lei ha controllato? C'era poi la vicenda di Moggi, no? Moggi, De Santis sicuramente fu controllato. Cioè, esisteva proprio un dossier su Moggi? Su Moggi no. Come no? Lei una volta ha detto in una recente testimonianza davanti al tribunale che anche Moggi è stato controllato. Sì, ovviamente. Nel senso, lei mi ha chiesto se c'era un dossier. Sì. Ci fu, come dire, la richiesta, questa sfida, anche questo è il link, di verificare alcune informazioni che erano state date alla società da un arbitro rispetto a comportamenti non etici. Anche lì Moratti. Alla fine, ma perché ti incisti? La questione è molto semplice, che Tavaroli ci potrà confermare. Cioè, è normale che le aziende in qualche modo controllino se i propri dipendenti adempiono in modo corretto alla propria mansione. Vabbè, questo riguarda Vieri, e nel caso di Moggi era in realtà il dipendente di un'altra società, cioè voleva sapere se commetteva delle scorrettezze oppure no, insomma mi sembra questo. Moratti glielo chiese esplicitamente, controllami Moggi per capire se fa delle porcherie, giusto? No, più o meno, dai. La società ha ricevuto questa informazione e vorrei sapere se sono credibili. Tant'è vero che le ritenne poi credibile e presentò l'esposto alla Procura di Milano. Però che tipo di controlli furono nei confronti di Moggi? Anche lì, tabulati telefonici, cose illegali. Sì. Cose illegali sicuramente. Parte furono svolte con attività illecite. Cioè. Con attività illecite. Vabbè, illegali adesso. Illecite, illegali. Anche Giraudo fu controllato da questo punto di vista? No, c'è il Giraudo. Ho capito, sì, De Santis lo sappiamo, De Santis è ormai accertato, eccetera. Vabbè, comunque, questo è, caro Parenzo. Però, in una recente testimonianza al tribunale, poi mandiamo via Tavaroli. No, dove lo mandi? No, lo faccio rimanere a casa, cioè, nel senso. No, ma chiediamogli anche come si proteggono i dati, come si No, ma sì, adesso facciamo una trasmissione tecnica, poi dobbiamo dare spazio agli ascoltatori, eccetera. Un suggerimento agli ascoltatori per come proteggere la propria privacy, questo lui lo sa. Ma non esiste la protezione di persone. Come no? Ma no, ormai è tutto siamo un grande fratello, tutti possono sapere tutto di tutti. Sono abbastanza d'accordo con Cruciani. Per carità. Allora, siamo fottuti praticamente, cioè non possiamo abbastanza. Siamo fottuti, cioè tutti possono sapere tutto di tutti, cioè è facile ottenere informazioni sulle persone, facilissimo, per chi è esperto, dice lei. Questo è il punto. Beh, anche perché tutte le rilascio volontariamente sui social network. Cioè oggi basta guardare un profilo su Facebook per sapere tutto di quella persona, volendo. Vabbè, che c'entra, questo non ha a che fare con noi. Ma non è solo quello, è l'identità digitale, Parenzo se la ricorda bene, l'abbiamo discusso molte volte, è la totalità delle informazioni che noi rilasciamo nell'universo digitale, non solo Facebook, non solo i social media. Senta una cosa, lei una volta ha detto in una testimonianza davanti al tribunale controllavate anche i dipendenti della Telecom, c'era stata una segnalazione eccetera, però è curiosa questa cosa qua, furono controllati i dipendenti anche quando prendevano una birra nei luoghi di frequentazione? Non prende qua il telefono dove sono io, non prende. Tavaroli? No. Come no? Perché non prende della birra, no. Ma come no? La direzione della security non aveva, stai zitto, aveva. Ma io non sento. La direzione della security aveva un'attività di intelligence all'interno della fabbrica. Abbiamo introdotto personale investigativo fornito da Cipriani con il compito di sondare il sentimento tra gli operai. No, non era Telecom. Non era Telecom. E che cos'era? No, Pirelli. Era Pirelli. Vabbè, Pirelli, insomma, svolgeva attività informativa sui movimenti, sulle amicizie, luoghi di frequentazione e banalmente anche la birra del dopo lavoro degli operai. Questo lei l'ha detto, questo non l'ho detto io. E come no? Penso che sia una testimonianza di altri. Come no? Mi sembra responsabile. Comunque era un'attività di controllo all'interno della fabbrica in un momento in cui c'era il rischio della riemersione del terrorismo. Senta un attimo, ma secondo lei sono cose che vengono fatte abitualmente? Sono cose che vengono fatte normalmente all'interno delle fabbriche? Non so dire abitualmente, ma delle credo aziende. Che... Come dicevo prima, il mercato dell'indagine è un mercato fiorente. Cioè i dipendenti delle aziende vengono controllati in qualche modo? Cioè le loro amicizie, le loro relazioni, la loro vita viene in qualche modo monitorata dai capi, diciamo, o no? Beh, guardi, voglio rispondere in modo indiretto perché non so dire, non conosco fatti oggi che mi possano consentire di dire se vengono, come viene fatto. Però, ad esempio, oggi è abbastanza... frequente che in corso di assunzione anche negli Stati Uniti recentemente c'è stato un grande dibattito, ti viene addirittura chiesto la password di Facebook per vedere qual è i tuoi comportamenti. Vabbè, quelle sono cose che vengono chieste formalmente. Io voglio capire se poi c'è un monitoraggio continuo durante durante il lavoro, cioè durante dopo l'assunzione, insomma. No, questo non lo credo. Se non per questione fatti straordinari, eccezionali, sospetti di fuga di spionaggio industriale, però credo che anche queste attività vengano fatte nell'ambito di ciò che è consentito. Della legalità. Va bene. Grazie Tavaroli. Ci sei, Parenzo? Ci sei? Come no, certo. Arrivederci, Tavaroli, a presto. Ciao. Arrivederci, Parenzo, arrivederci. Buona serata. Simone dalla provincia di Brescia prima. Simone. Avete perso 4 milioni di spettatori con questa intervista. In che senso, scusi? Non guarda, due palle. Due, una noia, sì, ha ragione lei. Adesso 4 noia. Milioni non esageriamo, 4 milioni non esageriamo. Una noia che neanche Parenzo. Ma questo è Cacciari che parla, che beh, Cacciari uno spegne, dunque alla fine non è che perde. Però con questo, vabbè, ma non era questo il momento. Ma chi è questo? Audi, chiesto, signore. È un ascoltatore, tu. No, allora? Il motivo per cui richiamo è sì. Parenzo, che è di un fastidioso, una cosa allucinante. Sì. Sembra Cacciari, eh? Cioè, a chiamare, però. Sembra intelligente, ma alla fine è solo che istruito, una cultura, sì, una media cultura, ma rappresenta perfettamente il PD. In che senso, scusi? Cioè, le idee che hanno il tenere certi concetti, le idee, tutto il sistema del PD è lo sponsor perfetto per quello che può essere il partito. Sa benissimo che le idee sono malsane. Sono malsane. Però alla fine è lei che dice stupidaggini. Tra Telecom, dove lavora, o altri posti tipo la Rai, le mantiene e alla fine dice pure, tanto mi faccio anche prendere per il culo, l'importante è che mi paghino. Perfetto uomo del PD. Perfetto uomo del PD. Vabbè. Lei ha detto la stronzata delle 8:15, ma va bene. Si è sfogato, è tranquillo, ha telefonato apposta, è sereno adesso, no? No, sono in macchina. Ecco. Ha detto la stupidaggine, ha telefonato, ha detto la stupidaggine. Sì. Adesso si rimette in macchina, tranquillo, e torna a casa. Dice, guarda, torna a casa, dai suoi... Da chi è sua moglie, non lo so, dalla sua fidanzata. Lei pensa che la gente dica stupidaggine Parenzo, solo sai, perché la pensa diversamente da lei. No, ma non mi discuto, le sue, no? In tutte le sue interviste, sì, quando sì, ribatte a qualsiasi persona che interviene, sì, alla trasmissione, sì, se la pensa come il PD. Ma, signore, ma che c'entra il PD? Su, non me ne frega niente, che c'entra il PD? Ma non c'entra niente il PD. Lei comunque adesso torna a casa, ah, no? dalla sua fidanzata, non so, dalla sua amica, dalla sua moglie, e dirà, ah, sai, ho chiamato Parenzo lì alla zanzara, l'ho insultato. Se gli piace così. Grazie, no, Simone. Grazie, Simone. Parenzo, sì, ha chiamato la zanzara e voleva insultare Parenzo. No, ci sta, va benissimo. Avanti, adesso torni a casa, sua moglie dice: ah, sai cosa ho fatto oggi? Cosa hai fatto, amore? Torno dove voglio, Parenzo. A lei non deve interessare dove ma torno. Ma sta facendo io, un esempio. Adesso lei torna a casa. Pensa ai soldi che prendi tu, Parenzo. Ma cosa c'entra? Ma tu restaurerai, lei restaurerà a casa e dirà, oh, sai cosa ho fatto oggi? Dimmi, cosa hai fatto, amore? Quali contratti hai chiuso? Ah, no, ho chiamato la zanzara, ho insultato Parenzo. Bravo sono stato, eh? Bravo. Questo è quello che farei tu. Ma no, fa lei! È lei che adesso si manda, chiama gli amici. Oh, Luca, sai cosa ho fatto? Di cosa hai fatto, Luca? Cosa hai fatto? Hai chiuso qualche contratto? Che hai fatto? Ho insultato Parenzo la zanzara. Ah, bravo, bravo. Simone, risponda un po', non resti così impietrito. Bene, mi fa piacere perché era quello che pensavo mi rispondesse alla fine. Ecco. Va bene, Simone, grazie. Allora, la regione, sì, che dice? Cerca di prendere in giro la gente, così, facendo, sì, il falsetto, dicendo, ah, ma adesso tu andrai fuori, dicendogli quello che vorrebbe fare, quando alla fine ha capito, sì, bene lui cosa intendo dire, sì, benissimo, che capito, è una persona che si fa prendere in giro, sì, continuamente la trasmissione pur di essere pagato, alla fine è uguale a, sì, tutti quelli del suo partito. Ma quale partito? Non ha la tessera, manco poco ci manca, sì, alla fine si dimostra quello che è. Va bene, Simone, una grazie. È arrivato a casa, no? È arrivato a casa, si fa prendere per il culo, alla, sì, fine, sì. Fa finta di essere tanto erudito, tanto dotto, ma alla fine è una macchietta anche lui. È una macchietta. Deve fare un po' l'intelligente, e se uno del PD dice una stronzata, deve avere il coraggio di dire no, questo non mi sta bene, no, sono il primo a dirlo e dire sempre di sì. Vabbè. A tutti quelli, sono a tutto il primo quello a dirlo, che dicono quelli del PD. Torni a casa e si esalti. Torni a casa o quant'altro. Va bene, Simone. Poi alla fine la chiameranno tutti. La chiameranno tutti. Tutti i suoi amici la chiameranno sul cellulare, oh, gliel'hai cantata, Parenzo, bravo, bravo che gliel'hai cantata, pieno di messaggi saranno, ti ho sentito alla zanzara, coraggioso, mamma mia che coraggioso, gliel'hai cantata a quel buffone lì, bravo, bravo. Simone, grazie. Mauro da Mantova, intanto in Sicilia la Corte dei Conti sta rovistando un po' nelle consulenze del signor Lombardo. Lì c'è molto da rovistare. Hanno trovato. Lombardo alleato con il PD in Sicilia, tanto per no, ma che con chiare, il PD in Sicilia? No? Che stai dicendo se sta con cosa? Non dire stupidaggini che non sai. All'epoca la sua con una parte del PD, all'epoca una parte del PD assolutamente appoggiò la giunta Lombardo. Allora, tra le figure, per lo spettatore che ha fatto questo atto eroico di chiamare alla Zandata, allora, tra le figure messe sotto contratto ci sono anche un trombettista e un suonatore di piano bar. Sì, esattamente. Un trombettista e un suonatore di piano bar. Abbiamo tutti i nomi, nei prossimi giorni vedremo. Antonio da Siracusa, buonasera. Anzi, Mauro da Mantova c'era, scusate, Mauro da Mantova. Mauro? Sì, ma quando è che mi porti i pennacchi, pare? Lo sto aspettando. Ah, tra l'altro dovrebbe arrivare. Tra l'altro a Mantova ho mangiato una volta dei ravioli alla zucca stupendi. Beh, non è che è una scoperta, cioè, e a poi volevo fanno. Dirti che a Mantova c'è il palazzo Te, dove dentro ci sono degli affreschi del grande Giulio Romano. Ma chi Giulio se ne Romano. Frega? Aspetta. Mauro da Mantova, non me ne frega niente, fammi rispondere, fammi parlare con Mauro. Non me ne frega niente di descrivere Mantova. Ma che hai preso questa trasmissione per una sorta di simposio culturale? Mauro da Mantova. Salve, cucciami. Dica. A Parenzo, strangolati da solo. Addirittura, strangolati da solo. Ma la faccia finita poi, pure lei, Mauro, su. Poi, Cacciari che faceva le pulci agli altri. Cacciari dovrebbe essere preso a sputi e schiaffi. Un orribile ponte moderno in una città che è la città più bella al mondo. Calatrava, ha dice fatto lei. Il ponte di Calatrava con 600.000 euro di preventivo, è costato circa 6 milioni di euro. Ma no, è sì, uno schifo, che mi viene il vomito quando lo vedo, viene il vomito. Io che a me piace macchine, moltissimo, ha qualche problema pare di struttura, cioè strutturale, sì, però il ponte è bello. Sì, è bello. In una città come Sydney. Ma però, non è vero, non, Ma allora facciamo una cosa, mettiamo una vabbè, poi al di là del ponte di Calatrava di Venezia, di cui non me ne può fregare di meno, di che ci voleva parlare? Tavaroli. Che c'è? Che è repellente solo sentire la voce. Dovrebbe essere tutti repellenti, tutti da sputare. In galera buttare via la chiave, adesso non esageri, insomma. Ma come si permette di aver intercettato la parola italiana? Ma questa non è una democrazia, questa è una dittatura camuffata da democrazia. Ma Napolitano deve essere intercettato, perché Clinton non è stato intercettato. Ma che dice Mauro? Non Nixon, si possono intercettare. Nixon non è stato intercettato. È stato intercettato indirettamente, tra l'altro. E Mauro, allora, la ringrazio. Allora, andiamo in provincia di Venezia. Fabio, buonasera. Pronto? Buonasera. Dica. Buonasera. Cruciani, grazie di avermi richiamato. Volevo chiedere intanto se è Giovanardi davvero che parlava di questo francobollo, cioè sosteneva l'idea di stampare un francobollo con Berlusconi. Beh sì, certo. Ecco, lui. Perché mi piace molto questa idea di Giovanardi, finalmente un'idea buona di questo ex ministro. E perché mi piace molto? Perché almeno ricorderemo Berlusconi, non lo ricorderemo certamente come presidente del Consiglio, non lo ricorderemo forse nemmeno, spero, come presidente della Repubblica, ma sicuramente sarà un modo nuovo di cambiare il gesto consueto di leccare il francobollo. Non lo faremo più probabilmente. Riusciremo finalmente a sputare sul francobollo. Sarà un nuovo gesto, una nuova idea lanciata da Giovanardi. Mi piace molto. Le piace questa idea? Così potrà sputare davanti sulla figura di Berlusconi. Ma perché ormai basta leccare i francobolli, potremo finalmente sputarci sopra. Beh, potrebbe essere un'iniziativa interessante. Potrebbe essere una buona iniziativa. Che si ritorce contro lo stesso Giovanardi, contro l'idea iniziale di Giovanardi di esaltazione del personaggio Berlusconi. Diego da Pavia, buonasera. Buonasera, Cruciani. Vada. Io chiamavo per dire la mia opinione riguardo alle dichiarazioni di Emilio Sciogli di ieri sera, le precedenti. Voglio dire innanzitutto che sono d'accordo con lei quando dà contro a chi insulta Emilio Fede per ciò che ha detto. Finalmente una persona che in piena trasparenza dice quanto guadagna, dice un personaggio comunque pubblico, dice quanto guadagna ed è trasparente con noi italiani, prima cosa. Secondo, assolutamente trovo che sia cretino chi lo insulta, perché comunque un manager del suo livello, che è stato tanto il direttore del TG4, comunque merita un compenso, cioè, a mio avviso non è neppure troppo esagerato di... Cioè non è esagerato 20.000 euro netti al mese? No, per un manager di questo livello no, considerato... Un manager di questo livello, non è che guidava... Cioè non è che... è stato comunque la Pirelli, sì, no, per carità, il punto è che, il punto è che non lo... anni, apprezzato. Io personalmente non apprezzavo la sua testata, comunque... Non troppo così. No, ma per carità, poi sono, ripeto, sono fatti tra Mediaset e Fede, cioè se Fede ha ottenuto un contratto di questo tipo avrà Mediaset. Se non è contento ha diritto di lamentarsi, io non trovo giusto criticarlo o insultarlo per questo. No, insultarlo e minacciarlo come è stato fatto, no, però criticarlo perché dice che meritava di più e perché non considera 20.000 euro una fortuna che gli è piovuta addosso alla fine della carriera, 20.000 euro netti al mese. Questo forse sì. Comunque gliel'abbiamo detto anche ieri. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco. Eccoci qui, 800 24 00 24, la zanzara di nuovo con Davide Parenzo in onda. Parenzo molto impegnato questa sera, è arrivato Pennacchi? Guarda, sta arrivando. Mi dicono, sono qui con Pier Mario, no? Ma chi è Pier Mario? Puoi salutare un attimo Cruciani alla zanzara, Pier Mario, ti prego, perché mi sta rompendo i coglioni come raramente. Ma come ti sto rompendo i coglioni? Devo lavorare, mi ti sto rompendo i coglioni. Guarda che sei incredibile. No, mi era già passato troppo tardi. Pier Mario, buonasera. Buonasera, signor Pier Mario. Senta, quando arriva il signor Pennacchi, Antonio Pennacchi? Lo aspettiamo a momenti. Lo aspettate a momenti, anche noi in realtà, però vabbè. No, vabbè. Non ci dovrebbero essere problemi. Lei è il proprietario di questa libreria, no? Sì. Ma Pennacchi sì. Che c'entra in questa libreria? Ha messo i soldi, non credo. Siamo amici da 25. Ah, siete soci? 30, no, soci no, amici da 25 amici. Anni. Ma di chi è sta libreria? La libreria è mia, di una società di cui faccio parte. Però in realtà, nelle varie librerie dove sono stato, Antonio è sempre stato... a casa sua, un punto di riferimento, insomma, no? Esatto, e quindi anche qui è praticamente casa sua la libreria, quindi certo. Qui... Senta, ma lei è fascio comunista come Pennacchi oppure è solamente fascista o solamente comunista? No, io non sono mai stato, non sono quello che dice il voto è segreto, no, e poi in genere non sempre voti, ecco, gli amici di Pennacchi quelli... per chi votano? Il signor Pier Mario, per chi vota? Io, e lui lo sa perché noi ci accapigliamo da tanti anni, io non sono mai stato un fascio comunista, sono sempre stato di sinistra, e quindi i miei voti vanno direttamente a sinistra. Dunque PD oppure più a sinistra? Nella mia vita ho votato anche più a sinistra del PD, e adesso? Ragazzo votavo DP, per dire, Democrazia Proletaria. No, adesso l'ultima volta ho votato il PD. E tra Renzi e Bersani chi le piace di più? È un bel discorso, posso essere sincero, nessuno dei due in questo nessuno momento. Dei due, non gli piace nessuno dei due, eh? Vabbè, qualcuno andrà a votare quando ci saranno, che ne so, Bendola. Ci dovrò pensare molto bene questa volta. Senta, ma una cosa da cui massacrarsi i neuroni, sì, temo proprio che sì. Vabbè, spero di avere insomma ancora tempo per pensare. Vabbè sì, fino a non so quando, fino a ottobre, cioè ecco, se si faranno queste primarie, se si faranno. Va bene, Parenzo che sta facendo? Parenzo, un attimo, che vedo, rientro. Sì, ma tanto Parenzo se ne va, le dà il telefono e se ne va. È successo qualcosa, sì. Si è infilato la giacca. Sì, ma non mi interessa. C'è una variazione grossa di cui, insomma, credo l'utente debba essere informato. Cioè, si è messo la giacca, benissimo. Adesso glielo passo. Grazie, buonasera, signor Pier Mario. Arrivederci. Dunque, devi sapere questo. Sì. Pier Mario, lo dico per i radioascoltatori, oltre a essere un grande libraio di Latina, ha questa barba marxista, dovete anche immaginarvelo, è un po' paciocco, con quest'aria molto tranquilla, calma, un aspetto quasi ieratico. Per l'amico Simone che ha chiamato prima il radioascoltatore, vada su Google e cerchi ieratico, perché mi sembrava un po', no? Sì. Difficoltà. Ieratico, vabbè, non parlare troppo alto, troppo complicato. Allora... Ha questa barba meravigliosa ed è marxista. Cioè, ho detto, tu hai una barba così. Dice, no, ma io sono ancora marxista. Questo era questo. A me ha detto che è solo di sinistra. Insomma, ripassamelo un attimo, voglio sapere se è davvero marxista, perché i marxisti ormai non dovrebbero esistere. Non dovrebbero più esistere. Ti vuole un secondo di nuovo, scusami, Pier Mario. Un secondo, non può lasciare perché c'è stata. Perché c'è no la troupe, Cruciani c'è, che è peggio di una troupe, perché Cruciani è una cosa. Ci vuole chiederti una cosa. Scusi, signor Pier Mario, signor Pier Mario, scusi, ma lei è marxista? Certo. Ma come? Esistono ancora i marxisti? Sì, proprio regolamentari, con tanto di barba così. Ma i marxisti sono scomparsi, non esistono più. No, qualcuno in condizioni climatiche particolarmente favorevoli. Lei ancora è uno di quelli che sono ancora marxista. La cosa da pazzi, cosa pazzesca. Se mi vedesse lo capirebbe subito, perché sono proprio anche fisicamente. Proprio assomiglia pure. Assolutamente, sì. Vabbè, assomigliare no, ma insomma, quel cliché, no, del passato, queste sopravvivenze, ecco, sono uno di quelle là. Grazie, grazie. Buona serata, buona serata. Ripassi il telefono a Parenzo, intanto sta squillando un telefono. Chiamo Antonio un attimo. Vodafone. Non risponde, poi vi diremo chi è. Antonio da Siracusa, buonasera. Buonasera a te, Parenzo, e buonasera a te, Cruciani. Sì. Ciao, mi devo darvi del voi. Sì. Vabbè, mi dico del tuo ormai. No, niente, stasera mi è piaciuta la battuta che ha detto il sottosegretario Giovanardi quando parlava del francobollo, no? Sì. L'avete beccato proprio nel clou, come dire. Bene, nella suite del discorso. Ma veramente no, non era nemmeno una battuta, secondo me. Lo vorrebbe fare per davvero il francobollo, essendo un esperto di filateria e di storia postale, come ci ha detto. Vuole fare davvero vorrebbe fare un francobollo per Berlusconi, quando naturalmente Berlusconi sì, Cruciani, tra 100 anni sarà passata miglior vita. Ma lui ci crede, è devoto, deve molto a Berlusconi. L'ha fatto sottosegretario quando l'UDC voleva buttarlo fuori. Comunque, discorsi suoi. Veramente anche ministro. Sì, appunto, sottosegretario, ministro. Vabbè, beni allora? Culturali, ma che beni culturali? Quali beni culturali? Tutto. Rapporti col Parlamento, su. Vabbè, sì, comunque, sai, è un democristiano, niente di strano, poi è molto civile. Vabbè, non è che i democristiani sono tutti delinquenti. No, molto civile, democristiano, ma nel senso civile, nel senso buono. Vabbè, allora? Però, sa, io le consiglierei, onorevole Giovanardi, di prendere una fotografia del 94, per mettere una foto da adesso, insomma, mi sembra un po' stanchetto. Cioè, lei dice, meglio mettere su francobollo una fotografia del 94, ma, sa, sì, le persone... Sì, sembrava più rampante, sembrava forse azzurri, un giovanotto così fuori. Però, scusi, Antonio, tanto nei francobolli ci sono sempre quelle foto stilizzate che non è che siano, no? Sì, ma si deve ritoccare, capito? E insomma è molto ironica, molto cabarettistica sta cosa, mi è piaciuta, capito? Va bene, è piaciuta, grazie. Emanuele da Terni, buonasera. Sì, buonasera da Teramo, in Teramo, Abruzzo. Teramo, in Abruzzo. Scusi Emanuele, Parenzo è arrivato Pennacchi? No. Parenzo! Non c'è, mamma mia che disastro, guarda. Emanuele, dica... Innanzitutto complimenti e congratulazioni, specialmente a Parenzo che questa sera è stato un po'. Ma io non voglio i complimenti, me ne fotto dei complimenti, vado al sodo. Divento pazzo. Ho sentito il Salone D'Alema, l'uomo del Monte ha detto sì o no su Renzi. Ma proprio lui, io che sono di sinistra, ormai è lì al Parlamento da 30 anni, ha governato anche lui, quindi dice agli altri che è inadeguato. Ricordiamoci che lo ha fatto resuscitare Berlusconi con la famosa bicamerale. Resuscitare Berlusconi, adesso queste sono vulgate, cose inesistenti. Ecco. Su. Poi... Adesso abbiamo una faccia nuova a sinistra, un modo nuovo di porsi, anche di parlare. Ma facciamolo, mettiamo tutti sullo stesso piano, facciamogli dire quello che vuole fare, quello che ha intenzione di cambiare nel nostro paese, e poi il popolo della sinistra deciderà. Renzi, Bersani, Vendola o chi che sia ci rappresenterà alle prossime elezioni. Ecco, questo volevo dire. Va bene, grazie. Parenzo, grazie. Pennacchi è arrivato o no? Ma sto aspettando che arrivi, infatti era per quello che ero un attimo in ambascia. Ero in ambascia perché sto aspettando qui che arrivi, devo fare la prova al microfono, cioè sono problemi. Vabbè, Nicola da Bari, dalla provincia di Bari. No, alle 20:30 partiamo qua. Sì, partiamo, innanzitutto c'è la zanzara fino alle 21. Nicola dalla provincia di Bari. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Senta, è la prima volta che chiamo e voglio esprimere un concetto molto semplice. Quello che non riesco a capire è perché in tutte le trasmissioni, sia televisive che radiofoniche, si parla sempre di accordi tra le persone, di accordi tra partiti, tra una persona e un'altra, scegliere una persona rispetto ad un'altra. Insomma, di tutta sta roba qua, ma non si parla mai di contenuti. E dunque? Cioè, E dunque io quello che voglio capire è che la gente, per fare una scelta consapevole davanti a una scheda elettorale, dovrebbe capire la persona che deve votare che cosa vuol fare, che idea c'è in testa, che idea c'ha nella soluzione dei nostri problemi, cioè che come li vuol risolvere. Perché la gente alla fine è quello che vuol sapere e chi mandare. Vabbè, questo lo sappiamo, sì, lei dice così. Poi, dunque? Poi c'è un'altra cosa che volevo dire. C'è gente che lavora in azienda che prende il cosiddetto patto di non concorrenza. Questo parametro. Ma perché lei ci sta parlando di questa cosa? Insomma, a me che cosa me ne frega di parlare del patto di non concorrenza? No, abbia pazienza, perché... non mi faccio innervosire, su. No, ma va bene, siete stati 2 ore a parlare di dell'Inter che ha praticamente intercettato telefonicamente. Cioè, voglio capire. Siccome ma che me ne frega a me del patto di non concorrenza all'interno dell'azienda? Di che sta parlando? Di cosa sta parlando, Nicola? Sto parlando del fatto che un'azienda, se ha dei segreti industriali, ha il diritto anche di sapere i propri dipendenti che cosa stanno combinando. Cioè, voglio dire, non è così campato in aria cercare di capire una persona cosa sta facendo, specie se questa persona sì, bisogna ha vedere dei che ruoli. tecniche si usano di controllo. Se uno controlla i tabulati telefonici è illegale. Le zanzare di casa trono di me, quando il giorno scivola via, si svegliano per me, quando tutto sembra poesia, la cruda verità, le zanzare di casa mia. Lorenzo, novità da quelle parti? Guarda, novità, abbiamo contattato poco fa canale il fascio comunista e ha detto sta a partire, ha detto stiamo a partire. Vabbè, scusa, ma scusa un attimo, ma se noi lo chiamassimo per telefono adesso? Che telefono, guarda, devo fargli fare la prova, il microfono è un disastro. No, al cellulare, rovinato. Ma quello che me ne frega a me, ma non me ne frega niente. Sei egoista, ma che egoista, su. Sei egoista, dov'è? È qua? È arrivato? In macchina con la moglie? Vabbè, possiamo tenere dettagliato l'arrivo, se ti faccio la cronaca. Dove si trovava esattamente? 10 minuti con la macchina. 10 minuti, amico mio, sei rovinato! Stai rovinato! Stai rovinato! Stai rovinato! Stai rovinato! Sei di una cattiveria, di un cinismo. Adesso te lo chiamo, insultalo per telefono, insultalo per telefono, te lo chiamo, insultalo per telefono. Insultalo per telefono. Sì, sì, deve arrivare qui, ti prego. Non me ne frega niente, ma non me ne può fregare. Un quarto d'ora. A me tutto quello che succede alla 7, detto con tutto rispetto, non me ne può fregare meno. Per ma cui te lo dico subito. Perché è il lavoro, è mio. Ma è il tuo lavoro, non il mio, è il tuo ma lavoro. Ma non è che è tutto sempre cotino. Tutto zanzare, è tutto zanzare. Il resto non me ne può fregare. Sei egocentrico, sei proprio culturalmente selvaggio, sei, capito? Wild sei, selvaggio culturalmente sei. Selvaggio aspetta, culturalmente. Ecco, aspetta un attimo, dimmi dove sei, rispondi. Pronto? Sì? Sono David Parenzo, dove siete che tra un quarto d'ora partiamo? Stiamo arrivando a Latina, quanto ci vuole Antonio? 7 minuti ha detto. Ma come 7 minuti, Antonio, te prego. Scusi, mi può passare dottor Pennacchi un secondo? Se non la, sta Giudi. Guidando, se non lo fate agitare. Ah, sta no, guidando. Non facciamolo agitare, per carità, ciao, grazie, a tra poco. Sta guidando, Antonio. Antonio, stai guidando, sono Cruciani. Ma tu mi hai detto alle 8:30, mi avete detto. Ma no, alle 8:30. Sì, ma alle 8:30 partiamo in onda, però. Ma che cazzo ne so io, ma voi siete matti proprio, vabbè, va, se no un truppo qua. Ma che stai a fare? Che stai a fare? Arriva. Ma dove sei? Ha detto che stai in macchina e comunque arriviamo. Arrivate, eh? Vabbè, ma vabbè, grazie signore. Ma io non capisco un cazzo di politica, che volete da me? Scusi un attimo, ma lei come fa a essere sposata col signor Pennacchi? No, ancora io me lo chiedo. Appunto, ma quanti anni ha lei? Molto più giovane del signor Pennacchi? No, siamo quasi uguali, solo un anno meno di lui. Però ha una voce più giovanile, lei lo sa. Mentre pensa ai cazzi tuoi, non voglio venire pure per bravo, diglielo, bravo Antonio. Vieni veloce, ti prego, io faccio le prove microfono. Scusi, anche lei è fascio comunista, signora Pennacchi? No. È tutta una cazzata. Ma sì. Lascialo tranquillo, dobbiamo provare il microfono, c'è qua Ariello in studio. Ma quale fascio comunista? Signora mia, mi dica lei che è tutta una cazzata. Siamo alla libreria Pier Mario qui. Ah sì? Ma non è, lei non può essere fascia comunista, una persona normale non può essere. Lei mi sembra una persona normale, non è che le persone... È una normale come deve essere. Ma fascio comunista non è una cosa normale, signora, scusi. Farlo guidare tranquillamente, non ho io. Sicuramente la storia è fascio. Però io sono comunista. Signora, mi dia retta, chiuda la telefonata. A pochissimi anni ho deciso che avrei votato per chi? PC e ho sempre votato PC. Ha sempre votato PC? Tu che sì. Lei è antifascista? Sì. Prima lo ero di più, adesso è un po' di meno. Non per fortuna con giornalista. Ha detto che non mi devo fidare. Ma che non si deve fidare? Comunque lei è comunista, tutto, no? Signora. Ma che chiudi tutto? Ma sto parlando con la moglie di Pennacchi, non con Guardi, Pennacchi. Quando ero bambina, sì? I contadini del posto dicevano i comunisti isel diavolo in Veneto, no? Sì. E io ho detto, caspita, ma a me mi sa che mi intriga questo diavolo. E dunque lei è diventata comunista per e questo. E io sono diventata comunista. Ma in questo. Realtà il suo marito che cos'è? È più comunista o più fascio? È una bella lotta, È una bella lotta. Ma per chi vota? Sì. Per chi vota oggi? Per il PD anche lei? No, lui vota PD. Lui vota PD, lei? Io sì. Lei pure, eh? Lei pure. Io sì. Vabbè, d'altra parte che uno... dobbiamo fare? Che ne non so, magari... ho più tanta voglia di votare, no, però... Grillo le piace, signora Pennacchi? Non l'ho capito molto bene. Cioè, non ha capito bene. Un po' di confusione. Ma dove ha conosciuto il signor Pennacchi? Dove l'ha conosciuto? L'ho conosciuto... In fabbrica pure lei? Durante una lotta sindacale. Scusi un attimo, non ma lo conosco così a voce mi dà fiducia. Il primo bacio quando gliel'ha dato il primo bacio? Ha detto che si vuole venire. Ma io non sto a Milano, è difficile. Comunque vengo sicuro. Ma scusi un attimo, okay. Il primo bacio quando gliel'ha dato il signor Pennacchi? Mamma mia, non me lo ricordo mica. Ormai è un ricordo superato. Ma vuoi far venire con calma al lavoro qui alla libreria? Per ma io sono entusiasta di questa conoscenza, la signora Pennacchi mi sta simpaticissima. Tu sei un rompiballe, ma sei è una signora di una simpatia travolgente, io lo dico sul serio, stavolta non sono ironico, è veramente molto simpatica, molto più del marito, cioè il marito è, per carità, è vulcanico, lei mi sembra molto posata, molto calma, molto meditativa. Ascolta, sono le come fa a stacco quel... devono venire alla libreria, ma chi se ne frega, se tu gli rompi le balle mentre stanno in macchina fanno tardi e a me salta il collegamento. Ma scusi signora Pennacchi, sei cretino, sei ontologicamente cretino, ma sta guidando lui, non lei che c'è, lei sta parlando al telefono, lasciala parlare magari, ma non agita, si agita perché... non si agita, è divertito pure lui, ma è divertito, ma scusi se un attimo, però da un pugno in faccia e io ti tengo fermo, guarda. Come si fa? Il suo collega si sta ingelosendo e allora brava, ha capito tutto. Scusi un attimo, le voglio chiedere quest'altra cosa, poi davvero la lascio, ma lei così calma, così pagata, con questa voce così sensibile, come fa a stare con una bestia come suo marito, perché è vulcanico, una bestia in senso positivo, con una come fa? C'ha un sacco di pazienza. Bisogna avere molta pazienza. Ma le ha letti i suoi libri? Anche troppo. I suoi libri oppure no? Mi dica la verità. Molto poco, manco la moglie ha letto i suoi libri. Pennacchi, manco sua moglie li ha letti i libri. Molto poco, vabbè. Ma lui lo dice sempre, non è un segreto. Manco ma sua moglie. Ma guardi che le mogli farebbero bene a non leggere i libri dei mariti. Questo è vero, perché, no, poi, consigliano magari delle cose sbagliate. Censuri, oppure... Rimproverano, Renzi, scrivi questo, certo, scrivi questo. Comunque, chi le piace tra Bersani e Renzi? Chi le piace tra Bersani e Renzi? Lei che vota PD. Tra Bersani? E Renzi, chi le piace di più? Renzi. Renzi, il sindaco di Firenze. Forse più Renzi. Più Renzi, Addirittura Ivana, la moglie di Antonio Benacchi, un mito assoluto. Io voglio, li voglio in coppia la prossima volta, in coppia. No, io non come odio no? Le telecamere. No, le telecamere, che qui è la radio, che non ci stanno le telecamere. Ah, ecco. La radio senza telecamere, eccetera. Senti, ma dove siete, signora Ivana? Ma chi se ne frega? Adesso non siamo a Latina, stiamo ecco. All'incrocio. Ci quanto ci vuole? Mezz'ora, una mezz'oretta. No, mi in diretta lei, vero? Eh beh, sì, come no? No? Sto in diretta, sì, certo. Ma no, chi diretta? Deve venire qui alla diretta alle 20:30, partiamo. No, vero. Certo che sto in diretta, che sto registrato. Signora, siamo in diretta con la zanzara, è normale, no? Ma... c'è ancora la filante, sta alla radio, stava. Vabbè, siamo arrivati a Latina, arrivederci. Sì, è stato, a fanculo, è stato un piacere. La ringrazio. È sparito il pazzo? È sparito? È sparito, eh? Oddio, è sparito il pazzo Parenzo, dicevo, Mario da Modena, buonasera. Buonasera, dottor Cristani, buonasera Parenzo, complimenti per la trasmissione. Vada. Io chiamo perché ho sentito l'ultima perla di grande Giovanardi, tra parentesi della mia città, che ogni volta non smette mai di stupirmi con delle magie incredibili. Io spero di aver capito male, ed è, Giovanardi sostiene, se non ho capito male, che Beppe Grillo non possa parlare perché... da quello che capisco, cioè, non è che non può parlare, non è che non può parlare in assoluto, ha detto che non può dare lezioni, sì, così ha accoppato tra persone, sì, no? Sì, così, se vuole gliela faccio riascoltare. Voglio capire, ma perché magari non ho capito bene, Beppe Grillo è stato vittima, è stato, ha creato un incidente per caso automobilistico dove sono morte tre persone, sì. Ecco, io allora, se è così, per caso Beppe Grillo era sotto alcol? Ma no, no, è stato un errore. Allora non mi ricordo, mi chiedo, adesso nei dettagli non me ne frega niente. Arrivato, io mi chiedo allora se Giovanardi... Aspetti veramente... un attimo, resti con me, un attimo. Parenzo? Ecco le sigarette, Antonio. Scusa, ma c'è Cruciani che mi continua a torturare qui al telefono, puoi salutarlo? Passamelo un attimo. No. Sì, passamelo. No, ma in diretta Ivana alla radio, ma cosa? Che stronza. Ma non ha detto niente. Salutalo solo un attimo, dai, che ti voglio salutare. Ma fa culo! No, Antonio! Antonio! Hai ragione, scusa. Passamelo un attimo. Ti vuol parlare, per favore? No, non fammi fumare qua, c'è una sigaretta. No, non fuori con i voi e basta. Ma no, ma passamelo un secondo, mi voglio scusare per questa cosa, pensavo fosse chiaro. Ti vuoi scusare? Ha detto che ti dà una cragnata in testa. Ma, ma scusa, ma è normale che era in diretta? Ma lo sapeva benissimo, pensavo fosse scontato. Ti vuole chiedere scusa. Che vuoi? Antonio, brutto. Ma era chiaro che era in diretta, ma è normale. Cioè, vabbè. Come stai innanzitutto? Tutte le volte ci fregano così. Come stai? Quando vado in campagna, arrivo da Milano a fregarci sempre così. Ma che te frega, non ha detto niente, è stata stupenda tua moglie, è stata meravigliosa, su, non ha detto nulla di particolare. Ma come stai innanzitutto? Come sto? Non lo so, non lo sto tanto bene fisicamente. Cioè, che c'hai? C'ho problemi alle gambe, vabbè, insomma. Vabbè, roba normale. Un po' di depressione. Controllabile. Ma Bersani vabbè. Che si insulta con Grillo? Che vuoi, non ti sente, dai. Bersani che dà del fascista Grillo, dimmi qualcosa su questo, che sono ansioso. Ma non mi impicciate sempre queste cose così. Bersani è forte. È forte, eh? Ma che ne so io? Meglio lui di Renzi o no? Senti, non si sente, se sento poco. Meglio lui di Renzi? Vieni a trovare, che così te ne ho pure. Vabbè, ciao. Che cavolo, su. Te lo meriti però. Mario da Modena dice di nuovo. E quando vai a casa sua, io vengo e ti tengo fermo mentre ti dai capocciate sulla testa. Vabbè, però dobbiamo andare una volta a Latina a casa sua, a cena. Andiamo una volta a casa sua. Aspetta che ti rivuole, aspetta. Sì. Hai visto però che forte la Roma con l'Inter, 3-1 gli ho fatto. Vabbè, ma che vuoi, io mica so dell'Inter. Ma che, grande Zeman, tu eri scettico su Zeman, me lo ricordo, ma Antonio. No, mi ha ripassato il telefono, non ti vuoi più parlare. Ma era scettico su Zeman, inutile che fa tanto spiritoso, ha detto Zeman, era scettico su Zeman, Era scettico, diceva sì. Non lo so, eccetera. Eri scettico su Zeman però, Sì. E adesso invece fa lo spiritoso, fa il gradasso. Stiamo leggendo Latina oggi. Ma chi se ne frega. Mario da Modena era con noi prima. Mario, dica. Sì, comunque conclude in 30 secondi che allora mister Giovanardi, mister l'etica e la morale le insegno solo io, forse prima di fare un discorso del genere dovrebbe pensare a quante persone involontariamente e tristemente nella loro vita si sono trovate in una condizione del genere. E allora... sembrerebbe quasi che non hanno più diritto a parlare, non hanno più diritto a vivere, non hanno più diritto a nulla. Ecco, Giovanardi un'altra volta ha perso un'occasione per tacere. Va bene, grazie, grazie, grazie Mario. Gennaro da Caserta, buonasera Gennaro. Gennaro? Gennaro? La 7 che c'è sulla 7? Grillo. Deve andare al Grillo. Proprio funerale. Ma anche i giornalisti hanno le loro responsabilità. Il sindacato dei giornalisti Emiliano Romagnolo ha sollecitato loro. Parlo di intercettazioni. Pino da Varese, buonasera. Buonasera Cruciani, sì. Lei è un fenomeno, è troppo bravo a fare la trasmissione, bravissimo. Volevo solo disturbarla per questo, Bersani e quant'altro. Io ho 57 anni, sono 37 anni che voto sinistra, una volta PC, poi diventato PDS, DS, così ho sempre apprezzato il miglioramento lasciando la parte estremista a sinistra, però nel 96 facciamo l'accordo con Rifondazione, dopo due anni il signor Vendola ci scarica, non contenti lo facciamo nel 2006 e dopo due anni ci scaricano e mo lo rifacciamo un'altra volta con Vendola. Beh, le volevo dire che magari non interessa molto, ma credo che come me tanti questa volta non votiamo più, basta. Cioè, perché solamente perché fa l'accordo con Vendola? Sì, no, anche perché voglio dire, è dimostrato nei fatti che quando la sinistra va al potere comincia a diventare non più di governo, perché quando stai al governo qualche compromesso, eccetera, eccetera. E allora siamo sempre al punto di prima. Cioè, l'istinto suicida del PD, di Bersani, ma come si fa a conciliare l'anima di quelli ex DC, a partire dalla nostra bravissima presidentessa, a con Vendola che non ci azzecca niente, voglio dire. Allora il percorso del PDS di spostarsi un po' più al centro, lasciando l'estrema a sinistra, ecco, questo vuole... lei che ne pensa? Ma insomma, anch'io non è che vedo con grande favore questo accordo con Vendola, però mi sembra ormai scontato. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti. Io dico che sono fatti miei. Allora, ho capito, lei è Zanzara e capisco bene che si occupa di altro, però io le zanzare di cenere li allontano, Da questa loro atroce malattia. Sono single, orgogliosamente di essere single, e voglio restare persino single. Ma io non ho nessuna idea di sposarmi, anche perché siccome il matrimonio non libera manco gli eterosessuali, figurarsi se libera gli omosessuali. Sto dicendo che le donne sono belle e che gli uomini sono belli, ma anche, voglio dire, cosa vuol dire che mi piacciono, non mi piacciono? Ma perché sono tutto, ognuno di noi è tutto, anche lei è tutto. Lei non lo potrà ammettere, si vede che probabilmente non ha fatto i conti col proprio inconscio, col proprio io, e c'ha delle cose che rimuove. La sua mancata liberazione non la attribuisca a me. Il tema non è se c'è il matrimonio o no, ma le chiamano come si vuole, non è il nome che deve dividere la gente. Noi dobbiamo stabilire dei quadri di diritti e facendo sicuramente, non permettendo più discriminazioni omofobiche. Era la voce di Rosario Crocetta. Rosario Crocetta che dice: siamo tutto, omosessuali e etero, tutto in una stessa persona. Non mi sposerei mai. Il matrimonio non libera nemmeno gli etero, figuriamoci gli omosessuali. 800 24 00 24, eccoci qui con la Zanzara, con Silvana Grasso, mito assoluto, ex fidanzata di Rosario Crocetta. Sembra impossibile, eppure è vero. Buonasera, ex assessore a Catania. Buonasera a tutti. Come sta? Ma è vero, signora Grasso, che lei una volta, quando era assessore alla cultura a Catania, si presentò in un'intervista brandendo una sega e minacciando di tagliare le teste? No, ho fatto di più. Pur di fare funzionare le cose, in piena giunta mi presentai con un enorme pesce tonno. Sì. Mentre c'era una riunione sacra di giunta eccetera, io dovevo fare una conferenza stampa, trattenevano in maniera impropria, c'era una bellissima mostra fotografica e io ho detto: la cultura esibendo il pesce non può aspettare, quindi li ho fatti scappare tutti. Ma scusi un attimo, ma questa cosa della sega è vera però? Quella cosa è verissima, verissima. donna, una grande sega. Mi dispiace soltanto di averla utilizzata poco, perché al di là di qualche scalfitura sul collo di nessuno, non sono riuscita per tempo a tagliare la giugulare a molti, a chi ha governato oggi la Sicilia, a chi era il resto Catania. Avrei dovuto proprio scarrottarli. Lo so, peccato che non ci sia riuscita, perché la Sicilia poi, quando è stata? Sì, sì, sì, ma guardi, mi riservo di specializzare sempre di più, sì, di specializzarmi nella vocazione alle armi bianche. Per quanto riguarda Crocetta, sì, comunque, siccome ritengo che di fermo più di lui ho visto soltanto i gruppi marmorei, le bellissime costruzioni marmore, insomma, ricordo la Oconte con i figlioletti. Però uno, preda, giusto, scusi signora Grasso, uno è anche il fatto che si muova e che è magari è una cosa positiva. Allora, vuole sapere la verità? No. Crocetta, sì, ha così sempre voluto sentirsi fidanzato con me, che nonostante questa bufala vergognosa di qualche giorno fa, questa cosaccia, insomma, orometta uscita sul Libero, sì, non ha smentito. Mi ha telefonato alle 7 del mattino, le giuro, mi sembrava compiaciuto. Io ho detto queste cose, dette forse 5 anni fa, non, sì, contestualizzate. Ho detto, sicuramente a me non fanno bene, faranno bene a te. Ho detto no, adesso smentiamo, facciamo una cosa congiunta sul Corriere della Sera. Ma si è ben guardato, perché l'esercizio, sì, segreto della sua finta, vera, presunta mascolinità lo eccita più di qualunque governatorato. Ma cioè, non ho capito, allora chiariamo un attimo, lei, sì, usa un linguaggio meraviglioso, barocco, eccetera, chiariamo una volta per tutte, Crocetta è, sì, omosessuale, sì o no? Allora, l'omosessualità di Crocetta io ritengo che sia l'esercizio e l'esibizione di un'approssimazione a una cultura greco-arcaica, noi parliamo di Teonide, andiamo noi bene, parliamo, alla quale lui poverino non si è mai potuto avvicinare davvero, perché ha studiato il tecnico, ha fatto la ragioneria e quindi conosce il greco come, sì, io posso conoscere il baseball. Dunque conosce, non è, greco, è omosessuale, come un rinoceronte conosce la tastiera di un pianoforte. Non c'è dubbio, dunque non è omosessuale. Guardi, ma lei ha avuto... Noi ci siamo incontrati a un ballo della Croce Rossa. Sì. Io ero là nella qualità così di scrittrice, ospite, sì, d'onore, omaggiata, perché poi sono nonna comunque che scrive anche per il teatro e, certo, faccio teatro, della mia vita faccio anche teatro, però in maniera consapevole, sono io a scrivermi il, sì, copione, sì, certo non me lo scrive Saro Crocetta. Sì. E allora, da quel momento in poi, io da scrittrice, da donna, sì, ho visto l'uomo che solfeggiava la sua mascolinità, la solfeggiava nell'invitarmi a ballare in un certo modo, la solfeggiava, sì, nel corteggiarmi notte e giorno con un assedio di fiori. Ma la conclusione c'è stato o no? L'amplesso, adesso io lo dico. Guardi, mi dica. Ahimè per lui no. Per lui, no, perché poi io scappai per tempo. Ah, è scappato, dunque non c'è, sì, stato nulla. Sì, perché lui, ascolta, all'epoca mi propose, sì, quella che in diritto si chiama la fuitina in Tunisia. La fuitina in Tunisia? Sì, all'indomani delle elezioni, ma noi, sì, parliamo di anni fa, 5 anni fa. Sì. Si ricorda che ci furono le... Sì. Un attimo solo, sentiamo Parenzo della libreria di Pennacchi, va sulla sette. Piove sui mirti divini, un poeta che è il nostro Antonio Pennacchi, sì, ecco, che tra poco vedremo. Siamo sempre molto sulla notizia, sì, insomma. No, esatto, scusa, sì, vede, no, David, te lo prima di Pennacchi, però devo salutarti, Pier, beh, certo, Mario, però, certo, che è l'uomo, è la libreria che ci ospita, dove il signor Pennacchi viene sempre quando si tratta di presentare i suoi libri, lui è sempre qui, vedi questa barba marxista, a l'unico vero non marxista, non gliene frega niente di quello che sta facendo, le condizioni climatiche favorevoli, come ho già detto, permettono questa persistenza. Ma vede, Pennacchi è fascio comunista, lei è proprio ma marxista, che sta di, ma... sì, sì, io non sono fascio comunista, la prima parte non mi, ma che non sta mi di... riguarda. Invece senti, c'è scusa, Pennacchi, scusa, già, Parenzo, no, fermo, eccolo qua. Te lo puoi scordare che lo presenti tu, Pennacchi, lo presento io, Pennacchi, ah, perché no, è un ospite a tutti gli effetti. No, perché io, cioè, ho passato il pomeriggio, voglio dire, a cercare di capire qualcosa della sua biografia, senti qua, è breve, perché a me risulta che, adesso vabbè, si insulta, scrittore, no? Ex operaio, sì, missino in una famiglia di sinistra, salvo poi aderire al maoismo di servire il popolo, poi 68ino, poi socialista, poi CGL, poi UIL, poi PC, poi ancora CGL, poi espulso dalla CGL, poi cassantigrato, poi scrittore che dopo una serie impressionante di rifiuti esplode con il celebre libro Il fascio comunista, eccetera, da cui hanno tratto un libro che scusate, un film che si chiama Mio fratello è figlio unico, anche se Pennacchi poi ha litigato col regista per varie ragioni. Poi nel 2007 si iscrive al PD, poi nel reagisci, Pennacchi, reagisci! Candida per Futuro e Libertà Latina, ma con dei distingue, ottiene un risultato non, diciamo non esaltante, poi basta, perché veramente non, poi se vuole continua lui, però insomma questo è il tuo ospite coerente insomma con altri tuoi. Ecco, basta che non ci dica poi che è diventato montiano, perché non ci crediamo. Beh, invece sì. Ecco. Però le piace Monti? Già l'avete messa. Non si arrabbi subito. No, abbiamo sbagliato qualcosa. Venire. Qua? No. L'ho obbligata io a venire, però adesso sì. È qua e quindi può dare venire. Il suo contributo. Non capisco anche perché mi abbiate chiamato a me. Questo però. Perché? Perché è un intellettuale, vogliamo sentire la sua opinione. Ma quale intellettuale? Giustamente gli ha risposto così. Io sono soltanto. Se, usa l'intelletto detto da voi giornalisti è sempre oggettivamente oggettivamente infatti vabbè comunque non si preoccupi però è stato operaio ancora fammi parlare io aspetta, sono aspetta, soltanto uno dobbiamo che rispettare un ordine prima dobbiamo fare la domanda seria signora Grasso sì allora la fuitina in Tunisia no la fuitina allora, in Tunisia col signor Crocetti in Tunisia, presupponendo questo io ero pronta a fuggire in Tunisia però sì. Ho detto con te un fidanzamento meta letterario poi mi guardo intorno e quindi scoppiò questa cosa comunque perché, niente alla fine niente sesso questa è la sostanza no, alla fine le ripeto io per Saro Crocetta, dal punto di vista paperotico, provo l'attrazione che provo per uno scarafaggio col diabete, mi capisce? Addirittura? Assolutamente sì. Ma insomma, adesso poi non è proprio così da buttare via. Provi l'idea di incontrare uno scarafaggio col diabete? Beh, insomma, lo scarafaggio col diabete è difficilmente riconoscibile, però lo scarafaggio sì. No, si riconosce. Ma oggi lei, signora Bavoso... Sì, è bavoso, sì. Bavoso, perché? È bavoso, e poi come si riconosce? E poi, ripeto, l'atteggiamento mio era meta letterario. Il problema, vede, non è la metà, è proprio meta in greco, è usare la preposizione meta. E che purtroppo, siccome, conoscendo poco il greco lui, ma anche ancor meno chi ha scritto l'articolo, non so, il Cappellani del libro, il problema sorge là. Che non era una parola tronca, ma era una parola, ma insomma, si direbbe in greco parassitora. Benissimo. Allora, detto sulla penultima. Scusi, sono tutti fregati per quello. Scusi, signora Grasso, però io vorrei capire una cosa. Allora, sì. Lei dice non è omosessuale, lui gioca... Lui ha proposto il sarcofago in casa sua. In io sarcofago? Ho detto, su quelle coltre mai, perché io ero appena stato operato... E dunque l'intenzione c'era di fare sesso ma col penso, signor Crocetta? Allora, nelle intenzioni sue, nella testa assolutamente fare maratone, ma mica sa, ma nella pratica, mio, nella pratica che il problema anatomico si sposta di mezzo metro dalla testa. Sì, certo, per certo. Poter esercitare, quindi era un problema di altitudine. Di altitudine, di altitudine, certo. Di altitudine. Comunque lei dice l'omosessualità è una sorta di finzione. Non ha mai avuto l'omosessualità secondo me è la coperta di Linus. La coperta di Linus, che sì, copre sì. Cosa? Sa quando il bambino si nasconde dietro la tenda per non essere acciuffato a fare i compiti. Lei dice, Comunque dice di essere single adesso. Io no. No, la signor Crocetta. Ma lei in Sicilia chi voterebbe adesso in Sicilia, signora Grasso? Sì. Chi voterebbe tra i candidati che ci sono? Chi vorrei io? Io li vorrei al rogo tutti. Tutti al rogo? Senza esitazione. Tutti al rogo, Tutti al rogo senza esitazione. Perché intanto qualunque cosa... Guardi, da un punto di vista degli uomini sono proprio pesci lessi, sono cirrotici, sono malandati, asmatici. Beh, pure fava. Sì, tremendi, proprio da un punto di vista fisico. Sono inavvicinabili. Inavvicinabili. Anche per farne letteratura horror, Michiche. Che non è il mio genere. Michiche? Signor Michiche. Il signor Michiche deborda di grasso animale nella testa come in tutto il resto del suo corpo, nella parola, una parola signor Fava, mi dica qualcosa deformante, grassa e grassa. Signor Fava invece? Claudio Fava? Stitico. Stitico. È emotivamente stitico. È vero, emotivamente soffre stitico. Di una sipsi emotiva, secondo me, inguaribile. E Musumeci invece? Musumeci sa, in attesa perenne che qualcuno gli dia la ciotolina con latte. Stupendo. Signora Grasso, io la adoro, la chiamo presto. La chiamo presto. La io chiamo adoro presto. Voi. Siete meravigliosi. Traffico. In un'Italia putrida. Ebbene, voi siete veramente. Io quello che ci dico, zio Mos, passione, cuore. Volata finale qui alla Zanzara, ma non è che c'è la signora Zaira in collegamento ancora, no? Non c'è, ha dato il telefono a qualcuno. Facciamo squillare il telefono di Parenzo, vediamo chi risponde, va. Alberto da Milano, buonasera. Mi spiace, non sono Zaira, anche se la preferivo Afona, intervenire dopo la signora Grasso è dura. Volevo dirle durissimo, che abbiamo, durissimo. Siamo un gruppo di fanatici utopistici che abbiamo fatto un sito, sì. OscarGianninoForPresident.it, sì. Perché vogliamo sostenere Giannino. Sottoscrivo, di questo, allora? Nell'ambito di questo sito, dopo tutti gli attacchi che subite, poverini, tutte le sere, c'è un link, un attimo, salvati un il soldato Cruciani. Aspetti un attimo. Vediamo se risponde qualcuno al telefonino di Parenzo. Telefonino di Parenzo che non risponde. Così lo disturbiamo. No, ma lo vedo lì, fermo, immobile. Servizi di niente, segreteria telefonica. Alberto, allora salvate il soldato Cruciani. Che nell'ambito del sito Oscar Giannino for President c'è un link, salvate il soldato Cruciani, viva la Zanzara, l'abbiamo messo stasera, sì. Alle 18.30, radio 24, salvando lui, salvate anche lo scudiero Parenzo, eccetera, eccetera. E stiamo, ma perché l'avete fatto? Non c'è niente da salvare, siamo sani e salvi, siamo per adesso, siamo erano salvati, ironico, perché siamo in sella, non ha bisogno di essere salvato. Magari succederà, ci guadagna molto dalle critiche, era un gesto di simpatia. Bene, grazie tutto qua. Grazie, ma lei apprezza, grazie. Lei che ha fatto Giannino for President, apprezza l'alleanza tra Giannino e Montezemolo? Montezemolo non mi piace per niente perché è un mangiapane a tradimento, non ha mai fatto niente. Giannino sì, l'ho apprezzo moltissimo. Beh, però i due si alleano insieme, pare. Pazienza, vuol dire che lo voteremo lo stesso, non si può avere tutto dalla vita. Sentiamo Pennacchi ancora, grazie. Vuole intervenire? Prego, prego. No, se no che poi avete chiamato la faccia. No, basta. Volevamo iniziare in così un po' sommessi. Allora. Acqua. No, i confini. Facciamoci prendere l'acqua così ci calmiamo un po' d'acqua. Rispetto alla domanda posta da faccia, io credo che il confine sia dato dalla onestà intellettuale. Dalla buona fede. Di chi parla? Se si può o meno cambiare opinione. Certo che tu puoi cambiare opinione. L'importante è che tu lo faccia perché pensi una cosa diversa e non perché il cambiare opinione è funzionale allo schieramento in cui di volta in volta stai. Ma lo sta dicendo a Quagliariello, no, non l'ho capito. In linea generale, lo dico in linea generale, perché io, ripeto, io di politica non capisco niente, io racconto storie e basta, ma lo dico a tutti quelli che fanno politica, perché io ho avuto un mare di maestri che mi dicevano che bisognava fare la lotta anche armata. Sei passato al Movimento Sociale. Sei appena candidato. Dalle MSI sei passato a CGL. No, aspetta, io però in tutti i miei vari passaggi, sì. C'è un piccolo particolare che sono stato quasi sempre cacciato da loro. Sì. Cioè, io ero alla ricerca della... Andiamo a Riccardo La Spezia, buonasera. Oh, finalmente, buonasera. Vada. Ora che sono al telefono, bellissimo. Volevo parlare un po' delle intercettazioni che riguardano quel personaggio, sì. Che nel 56 parlava dei carri armati che rimettevano ordine in Ungheria, no? Quel signore lì che magari fa paro con Pennacchi, la stessa tipologia di persone. Cioè, non ho capito, scusi. Invece di far sentire sempre le intercettazioni di Berlusconi e Laminetti, parliamo di quelle magari che riguardano Napolitano e Mancino, per dire, no? Capito? Ma che c'entra l'intercettazione della Napolitano e Mancino? Sono della stessa epoca, 70 anni fa, parlano sempre le solite cose. No, veramente le intercettazioni della Napolitano e Mancino sono dell'autunno scorso. No, io pensavo che fossero quelle per uno scambio di amori, come quello fra Crocetta e la sua fidanzata, più o meno lo stesso genere. Lo sai che non ho capito nulla? Cosa devi capire? Cioè, no, devi capire. Non ho capito nulla. Qual è il contenuto dell'intercettazione? Ma perché lei vuole conoscere il contenuto dell'intercettazione tra Napolitano perché, e Mancini? Perché non me ne frega niente di sapere quello fra Lamieti e Berlusconi, che potevano essere anche e invece tutti, vuole sapere, vuole sapere quello lì sì. Scusi, ma se la magistratura, se la magistratura potevano dire che si stavano amando. Chi, Mancino e Napolitano? Può essere, mi pare no? complicato, mi pare difficile. Perché no? Perché no, ma tutto è possibile. Delle ore, a maggior ragione, a maggior può essere che loro si amassero, no? Sì, a maggior ragione sarebbero, come dire, da distruggere perché assolutamente non in Scusa, mi fai sentire quelle di Berlusconi con la Minetti perché quelle non sono da distruggere. No, ma guardi che se fossero diffuse dei festini assieme, se no? fossero diffuse potevano fare dei festini. Sì, assolutamente, caro Riccardo, se fossero diffuse in maniera come dire legale, magari, le manderei, noi, le ma manderei in onda. Ma parliamone, diffondiamole. Ma perché non dobbiamo diffondere? Ce l'ha in mano la magistratura. Cioè, ma parliamone, vogliamo sapere. Ma cosa vuole sapere lei? Cosa vuole sapere lei? Se si vogliono bene, se si parlavano perché volevano bene. Sì. Io sono curioso. È curioso, lo so, ma la curiosità non può di sapere quello che faceva non può essere, non può essere sono curioso di sapere cosa facevano loro due. Non può essere sempre appagata la curiosità, E allora, non può essere. Qui sono i famosi due pesi due misure, perché se fossero una coppia di fatto, potrebbero essere avere anche l'aspirazione a sposarsi. Sicuramente l'indignazione che c'è nei confronti delle intercettazioni di Napolitano non c'è stata con le intercettazioni di Berlusconi in alcuni casi. Su questo non c'è assolutamente, dubbio. Assolutamente. Ma questo l'abbiamo detto in lungo e in largo. Berlusconiano. Assolutamente anti-berlusconiano, ma la cosa mi fa veramente schifo. Questo non significa niente sul fatto che le intercettazioni di Napolitano debbano essere diffuse. Non c'entra nulla, non c'entra nulla. Secondo me sì, Belpietro dice uguali di fronte ma lei. Che c'entra questo non c'entra nulla. A parte che non è vero, non siamo tutti uguali degli altri. E comunque sì. In ogni caso perché potrebbe esserci anche degli estremi per fare l'impeachment. Ma no, perché i giudici l'avrebbero già i giudici l'avrebbero già deciso. E no, perché c'è un conflitto di attribuzione, perché a quel punto vabbè, ma lasciamo perdere le cose giuridiche, questi dettagli. Se ci fossero stati indizi di reato, i giudici sarebbero già passati ai fatti, ancora Pennacchi. Governato il centro sinistra, ci sono alleato pure con Casini, eccetera. Beh, insomma, quindi lo spostamento a destra ci sarà, però è bene che per parte nostra chi tratti sia leggermente di sinistra, leggermente dalla parte delle classi lavoratrici, insomma, quindi mi sembra mi fido di più. Certo, rispetto alla politica in generale. Ci sarebbe da dire, non mi fido di nessuno. La politica non è che ha brillato in questi vent'anni. Dice che Bersani è il meno peggio. Non è il meno peggio, è quello che mi dà un minimo di garanzie in più rispetto alla fedeltà della rappresentanza dei certi ceti popolari, delle larghe masse popolari. Dobbiamo andare in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Vabbè, Mario da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. E niente, volevo dire che diciamo così i marxisti ci sono, esistono, sono una minoranza e il pensiero dal punto di vista economico marxista è quanto di più rivoluzionario attuale e sia dal punto di vista delle previsioni che fece Marx oltre diciamo così 200 anni fa è proprio il completamento di un disegno che quest'uomo aveva visto tanto tempo fa e che si è materializzato in questi ultimi anni. Per cui questo è, e ritengo che le teorie economiche che siano diciamo così, anche se inapplicabili molto spesso in questa Europa, sono inapplicabili, ma sostanzialmente sicuramente se ci fossero come in paesi dell'America Latina ci sono, quello che parlo del socialismo reale. Sì. Sicuramente farebbero stare meglio le persone. Ah, sicuro, guardi, infatti la dimostrazione. Sono le pagine di storia che sono state scritte dal socialismo reale e dal comunismo, sicuro. Esatto, allora se lei adesso prende sì, sicuro allora, in senso ironico però prende, allora se lei adesso prende il diciamo così il ceto popolare russo di ceto adesso, popolare con... russo di adesso di adesso sì Cruciani di adesso e se lo prende si e sta peggio come si sta peggio adesso. Si sta peggio adesso rispetto a prima. Vedrà che sta peggio, insomma. Sta io peggio. Dico su bene, basi si reali. Stava meglio durante il comunismo. Sì, certo, basi realissime, senta, come no. Luciani, lei è un discepolo di Milton Friedman, quello dello Stato minimo e via, che dei danni ne ha fatti parecchi. Lei è, questo è il suo pensiero. Io non lo condivido, ma lo rispetto. Poi, va bene, grazie Mario. Gianluca da Treviso, buonasera. Veloce Gianluca, che dobbiamo chiudere. Sì. Buonasera, io chiamavo per Renzi e vedo che i vecchi dirigenti del PD non lo prendono in grande considerazione, dicono che e invece? Lui è, è una novità solo per fatto anagrafico, ma questo paese ha bisogno di giovani, altrimenti succedono degli episodi spiacevoli per cui la vecchia classe dirigente è tutta solo se stessa. Viva Renzi dunque! Viva Renzi! Sì, ma guarda, io le faccio solo un esempio velocemente. C'è stata recentemente la liberalizzazione delle farmacie e poteva essere una grande opportunità per i giovani farmacisti. Cosa fanno? Tolgono il concorso per merito e lo fanno solo per anzianità. Questo è il paese dove viviamo. Va bene Gianluca, grazie, ci sentiamo domani 18:30 la Zanzara, ciao. Ma che cazzo ne so io, ma voi siete matti proprio, vabbè va. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24, la passione si sente.